come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. David! Eccolo! Eccoci qui, come stai? Bene, bene. Lassini, carico. Dov'è Lassini? Lassini, Lassini, so che ha chiamato ieri Lassini, eh? Sì, proprio in chiusura di trasmissione, ti faccio risentire perché eri andato via, eh? In chiusura di trasmissione Lassini. Non intendo far niente di diverso di quello che penso di dover fare, la mia campagna elettorale, la mia battaglia, eccetera. Guardi, sono imbarazzatissimo da questa situazione, però non so, prenderò una decisione, diciamo così, prenderò una decisione. Eccolo, Lorenzo, ci sei? Come no, pronto? Sei pronto? Carico a molla. Ma oggi non ce la facciamo, secondo me, eh? Lassini? Lassini? Rispondi, Lassini. Rispondi, su. Ti vogliamo difendere questa volta. No, io veramente lo voglio difendere a questo punto. Ma sì, no, anch'io. Non per quello che ha scritto. Ma la tesi è? Ripetila tu. No, la tesi è uno così a questo punto, perché devono chiedere un passo indietro? Rimanga in lista. Siano gli elettori a giudicare. Non c'è dubbio. Stiamo parlando di Roberto, credo, no? Roberto Lassini. Presidente dell'associazione, che ha ideato i manifesti via le BR dalle procure. Noi vogliamo, qui alla Zanzara, noi vogliamo che resti assolutamente in lista. D'altra parte sembra che non si possa nemmeno fare, cioè, questa è una cosa incredibile del sistema elettorale italiano, sembra che una volta messo in quella lista nessuno lo possa più togliere, cioè tecnicamente non è possibile, che è una cosa pazzesca, io capisco. Certo, sono state raccolte le firme, no? Sì, hanno depositato, certo. Tutto. Questo è, è anche a protezione di chi si candida, no? Beh, non solo, ma anche, diciamo così, degli elettori, di quelli che hanno sottoscritto la candidatura, quindi deve essere lui a decidere di andarsene, questo è il sistema, no? Non è che adesso posso io, la Moratti, improvvisamente può dire no, vada via, mi imbarazza, ma tutto quello che dice Berlusconi sui magistrati non imbarazza nessuno, cioè improvvisamente Lassini diventa un problema. Io voglio dire, ne avrei no, fatto ma al di là... di conoscere il no, signor certo, Lassini, però al di là di il questo... contributo politico di Lassini, voglio dire, comunque, per carità. Allora, ieri sera, ripeto, ieri sera diceva cerco di capire se andare avanti. No, ma stiamo scherzando, ma sicuro, non c'è nessuna chiamata dall'alto, cioè sono io che sono anche un attimino disorientato, adesso voglio cercare di capire se andare avanti, dottor Cruciani, guardi, veramente, lei ha tutto il mio rispetto, veramente, non so che cosa dirle. Poi questa mattina, credo intercettato da Radio Capital, difendo gli autori del manifesto. Io ho difeso politicamente gli autori dei manifesti, non li ho fatti io. Secondo me sono solo una provocazione. E poi ancora non faccio un passo indietro. Se lei comunque non fa passi indietro. No, io ritengo che autosospendermi sia anacronistico nel Partito della Libertà, quindi anche della libertà di opinione. E quindi si candida? Sono già candidato, non intendo assolutamente rinunciare. Mi pare che l'accordinamento regionale sia assolutamente d'accordo con me. Beh, veramente il coordinamento regionale sembrava non fosse d'accordo con lui, nemmeno il sindaco di Milano, che lo dice esplicitamente, sono incompatibile con Lassini, è tutto un gioco delle parti clamoroso questo Camoratti. Io ho condannato da subito questo gesto ignobile nei confronti di un'istituzione che ha pagato proprio negli anni del terrorismo col sangue attacchi proprio da parte delle Brigate Rosse, quindi come ho detto la mia candidatura è incompatibile con la presenza in lista di Lassini. Bene, poi ci sono quelli che condannano Lassini ma sono ben altristi. naturalmente nella maggioranza. Gasparri, sono contro i manifesti, poi cita la Sorrosa, che pure oggi andrebbe citato per altre cose, dopo lo citeremo, Gasparri. Certo. Condivido le iniziative che sono state assunte anche dai dirigenti responsabili del territorio, che chiedono a questo candidato di fare un passo indietro. Quei manifesti sono inaccettabili, il clima va rasserenato, perché anche da altre parti sono stati dati contributi assolutamente intollerabili. Penso all'articolo di Asorrosa sul manifesto che invocava un colpo di Stato di Colonnelli contro Berlusconi. Non si risponde alle follie della sinistra con iniziative come quella di quel manifesto. Sì, c'è una differenza però che bisogna sottolineare. Asorrosa è un intellettuale che scrive sul manifesto, non è che faccia campagna elettorale e non è candidato per il PDL al Comune di Milano. La differenza è questa, perché se un intellettuale di centrodestra avesse scritto i brigadisti, naturalmente ci sarebbe stato un casino lo stesso, molto più casino di quanto non ci sia stato per Asorrosa, però sarebbe stato completamente diverso. Che ne so, se un editorialista del giornale di Libero avesse fatto un'iniziativa di questo tipo o avesse pubblicato un articolo di questo tipo, ci sarebbe stato rumore, però non rumore di questo tipo, no? O sbaglio? È chiaro, ma l'imbarazzo è tutto dentro il PDL, ma è che in molti non lo possono dire. Cioè, Lavorati giustamente deve giocarsi una partita che è quella elettorale e dice: ho paura di fregarmi il voto moderato con questo casino che è venuto fuori con questo signore. Dopodiché molti del PDL dicono le stesse cose di Lassini. Quando Berlusconi disse che i magistrati sono matti, andrebbe fatto un test psicologico per i magistrati, quando dice che è in atto un colpo di Stato giudiziario. Però senti un'altra cosa, perché va bene tutto, però uno dei magistrati, tra l'altro più bravi della Procura di Milano, che sta indagando su questa vicenda di Lassini, è uno dei PM che indaga sull'attentato alla magistratura, uno dei magistrati che ha fatto la storia della magistratura italiana, Armando Spataro, un uomo che si è occupato di terrorismo, eccetera eccetera, il quale in una trasmissione di Lucia Annunziata andata in onda ieri sera parla di Berlusconi come il duce che vuole le toghe adoranti. È un ragionamento, è chiaro, però perché Spataro va in televisione e fa un paragone tra Berlusconi e il Duce? Sentiamo. Erano quelli magistrati adoranti e piacevano molto al Duce. Anche oggi a qualcuno piacerebbe disporre di una magistratura esattamente come quella, ma la nostra Costituzione ha scelto un modello totalmente diverso, quello di una magistratura indipendente e indifferente ad ogni logica politica. Allora, secondo me, lo dico con tutto rispetto, Spataro poteva limitarsi ad andare in televisione, per carità, può parlare, secondo me uno dovrebbe parlare il meno possibile un magistrato, ma questo può essere, ma questa è una mia opinione, e poi dire semplicemente il nostro sistema prevede questo e quest'altro, storicamente ha previsto la non dipendenza come succede invece in altri paesi, comunque la non dipendenza della magistratura dal potere politico, punto. Ma il paragone tra Berlusconi, perché non lo nomina esplicitamente, ma è evidentemente lui, e il Duce, mi pare una cosa assurda detta. Ma non ha detto proprio questo. Ma come non ha detto questo? Fatto bene a farlo riascoltare, hai fatto bene. No. Ha detto qualcuno come il Duce vuole le toghe adoranti. Qualcuno chi sarebbe? Dai, su, però. Al potere politico. Ho capito, ma non possiamo fare. Non possiamo usare due pesi e due misure. Come è avvenuto in altri regimi nel passato. No, l'Italia ho capito, però. Ho capito, no, ma il riferimento a chi è? A Berlusconi. Cioè, i magistrati adoranti piacevano. Ma non solo, voglio dire, c'è una proposta di legge, ad esempio, della Lega, che prevede l'elezione diretta dei pubblici. No, ma questo non c'entra niente. Parla di magistrati adoranti. A parte che i magistrati eletti dal potere politico non ha detto che siano adoranti. Ma in ogni caso, i magistrati adoranti piacevano molto al Duce. Anche oggi a qualcuno piacerebbe disporre di una magistratura come quella. Cioè, a dire, il paragone è a Berlusconi vorrebbe una magistratura come c'era ai tempi del fascismo. Il riferimento è quello, su. Non possiamo dire altre cose. Il riferimento è esattamente quello. Berlusconi, come il Duce, vuole le toghe adoranti, detto da uno degli esponenti principali della magistratura italiana, una persona molto ascoltata, molto sentita, una persona che sta indagando su Lassini, per carità, indagherà con tutte le garanzie del caso, e però è così. E vai in televisione a dire che Berlusconi è come il duce, e questa è la sostanza. Non come il duce, che come il duce, è come il duce. C'è una maggioranza che vorrebbe, capito, una magistratura. Poi ne possiamo discutere, ma poi ne possiamo discutere, ne possiamo discutere se sia giusto o sbagliato. Dopodiché non lo dico io, hai capito? Non lo dice un magistrato di punta, sì, della, sì, procura milanese. Poteva, certo, cioè, se lo dicessi io o tu, ne possiamo discutere, va benissimo. Ma è una persona che parla con gli atti, cioè, Spataro, ma in questo caso non parla con gli atti. Scusa, che atto è questo qua? Che atto è questo? Vabbè, però ti voglio fare ridere, ti voglio fare ridere. La discussione è aperta, anche contributi degli ascoltatori. Rutelli sul caso Ruby, sì, non è male questa qua, battuta del giorno. Mubarak si è trovato una nipotina irrequieta. Sentite, non è male, sentite. Nessun politico può sottrarsi all'accertamento della verità, infatti questo disgraziato di Mubarak si è ritrovato questa nipotina irrequieta, gli è capitata e adesso infatti è crollato il suo governo. Ragioni come uno di noi, i libri della scuola non te li venderà. Vabbè, vabbè, vabbè, vabbè. Forte, questa è, sì, bella battuta, questa è forte. Dove andiamo? Dove andiamo? Direi ancora i benaltristi prima del traffico. Un altro benaltrista, lo so che tu vai a Siena. Lupi, Maurizio Lupi, contro i manifesti, ma anche Zazzera. Figuriamoci un po', Zazzera, un deputato dell'Italia dei Valori che abbiamo intervistato l'altra volta, che è intervenuto, che ha scritto delle follie pazzesche su Maroni. Comunque, Lupi. Io ho condannato sin dall'inizio quei manifesti di Milano. Quando uno fa una cosa che è una cosa gravissima, non ricordando quello che è accaduto, non ha giustificazioni, non ci sono se e ma anche qui non usiamo un doppio pesismo. Non è che se l'onorevole Zazzera in Parlamento mette il cartello, purtroppo chi c'era l'ha visto, Maroni assassino, lì è l'irresponsabilità dell'onorevole Zazzera e l'onorevole Di Pietro, che è il suo leader, non c'entra nulla. Se invece un signore che io non conosco, che è stato candidato nelle nostre liste, però di Milano, scusa, no, in quell'occasione di Pietro, mette questo manifesto la colpa di Berlusconi. In quell'occasione però Di Pietro chiese scusa, no, mi pare. Appunto, chiese scusa. Il ragionamento di Lupi è un po' diverso, dice non è responsabile Berlusconi di quello che fa un suo un candidato del PDL da indipendente, peraltro, eccetera. Infatti, ha ragione anche Pancani, credo fosse lui stamattina, che dice però Berlusconi su questa vicenda non ha detto nulla sino ad ora, o magari io qui in Toscana non ho visto le agenzie. E allora mi diceva prima Diego Destro di DAV che in qualche giornale, io non ho letto attentamente tutti i giornali, tutti i retroscena, DAV blog, che sembra che non è un virgolettato, che Berlusconi, sai, questi retroscena eccetera eccetera, dice condivido politicamente l'iniziativa, naturalmente però questo naturalmente non è confermato. Abbiamo il traffico, torniamo tra un istante. È stata tua la colpa, allora adesso che vuoi. Bene, bene, 18:47, 800-24-0024, questa è la Zanzara in collegamento da Siena, David Parenzo, secondo giorno di Pasqua ebraica, però con noi, presente con noi qui alla Zanzara, ascoltatori già pronti e ospiti che verranno, chiamatemi Lassini, su, altro tentativo, non mollo, come con Asorrosa, poi dopo riproveremo anche con Asorrosa, non mollo. Chiamiamo anche Albi Asorrosa. Adesso tutti, chiamiamo tutti, già abbiamo troppe persone da chiamare, telefonino di Lassini, su. Una meraviglia questa idea qui, direttorissimo. Basta, non è che si può. No, questo programma funziona, me l'hanno detto in tanti qui a Siena anche. Alla finita con questa bella gara. L'idea di fare queste telefonate così, perché la radio poi questo media caldo. Eccoci qua, signor Lassini. Chi parla? Sì, sono Cruciani. E parenti. Non c'è il signor Lassini. Ma non c'è mai signor Lassini. No, non c'è mai, esatto. Come non c'è mai? Dov'è? Non c'è mai, sta portando lì un pullman pieno di roba. Buonasera. Come un pullman pieno di roba? No, è andato a toccare i manifesti. Ma ecco, un pullman pieno di roba. Ma cosa fai, trasloco? Cosa fa? Ma non lo so, un pullman pieno di roba, uno si preoccupa pure, cioè un pullman pieno di roba è anche equivoca come cosa, Un pullman pieno di roba. Pullman pieno di roba. Alla fine sarà costretto a cambiare il cellulare, noi siamo molto vicini al reato di stalking. Samuele da Cremona, buonasera, 800-24-0024, Samuele. Buonasera, la notizia che viene dalla segreteria di Lassini è questa: sta portando un camion pieno di roba. Io non so cosa vuol dire, però è questo. Samuele, dica. Mi sente? Pronto? La sento, Samuele. Ma io diciamo che sono uno spettatore un po' distratto della politica, nel senso che è come se uno la televisione accesa la guarda ogni tanto. Beato, no? Lei. No, ecco, è come la maggioranza delle persone, però tutte le volte che ci butto un occhio rimango veramente impietrito. Cioè, come si fa a dire a uno che fa parte del Popolo della Libertà, e già il nome stesso dice che dovrebbe essere libero di dire quello che pensa, di fare un passo indietro, e poi lo stesso capo, non lo so, lo stesso il Presidente del Consiglio, che ne dice ogni sulla magistratura, e lui che si permette di mettere un cartello, allora lui non lo può dire. Cioè, io veramente rimango allibito da questo modo di fare. Non ho capito con chi se la prende lei, se se la prende con qualcuno, Samuele, con il PDL che gli chiede anche attraverso il sindaco di Milano indietro, di... cioè secondo lei se fosse coerente il PDL con quello che sostiene Berlusconi ogni tanto, quello che sostengono altri, dovrebbe farlo rimanere in lista, giusto? Ma assolutamente sì, se no lo dissociano del tutto, non fai un passo indietro, se no ti dissocio dal partito perché tu hai detto una cosa che va contro gli ideali del partito. Ma se il tuo Presidente del Consiglio le dice tutti i giorni in TV, non credo. Beh, che diciamo letteralmente non ha mai detto le BR, le vabbè, via, le BR della capire, procura. L'ha fatto capire. No, ma infatti non voglio rimanere al gioco di parole che poi che veramente poi... adesso questi si attaccano, si arrampicano sui vetri proprio per non far brutta figura. Cioè, siate coerenti. A parte che io sono d'accordo sul fatto che la magistratura ogni tanto abbia e faccia degli abusi di potere, questo senza nulla togliere a chi il suo lavoro lo fa bene, perché vabbè, la ma questo è un discorso generale, Samuele, che c'entra? Sì. Quello... assolutamente sì. Però veramente io rimango impietrito e ogni tanto butto un occhio, e tutte le volte che butto un occhio vedo delle cose che mi lasciano lì così, e credo che la maggioranza delle persone che non possono essere spettatori 24 ore su 24 della politica, ma che ogni tanto buttino un occhio, rimangono davvero impietriti a queste cose. Grazie, proprio. Grazie Samuele. Andiamo a Roma. Marco, buonasera. Buonasera. Niente, sono un po' preceduto da Parenzo perché ha detto che volevo dire io. Cioè, questa persona la conoscevano già prima e adesso non capisco perché farla fuori dalle liste. Insomma, è una cosa, come dire, appunto, mi ha detto anche questa persona prima di me, antidemocratica, e quindi... Ma io non so se sia antidemocratico farlo fuori dalla lista, pare che tra l'altro non si possa nemmeno fare, la cosa sì. È ancora più incredibile, però effettivamente se uno poi cerca di capirla questa cosa, cioè una volta presentate le liste con le firme eccetera, uno può dire non mi date i voti, non voglio che mi votiate eccetera eccetera, però non si può tecnicamente ritirare. Questa è una cosa quasi a protezione, come diceva Parenzo, di chi si è candidato e di chi ha firmato per la candidatura. Ma questo è un aspetto tecnico, l'aspetto quello che mi interessa è l'aspetto, come dire, formale, nel senso che se un partito prende le distanze da una persona benissimo, al di là del fatto che tecnicamente non lo possa ritirare dalle liste, ma il fatto stesso che prendono le distanze è una cosa. Uno può anche prendere le distanze da un'espressione via le BR dalle procure. Non mi presento se c'è lui, perché le cose sono due: o la Moratti fa le liste con la tombola, cioè chi esce con i nomi a casaccio, oppure sa ogni persona che viene messa. No, quello è impossibile. Il sindaco certamente non è a conoscenza e nemmeno decide tutte le persone che sono nella lista del PDL, anzi deciderà la lista del sindaco se no. Si fa, e qualcuno sicuramente che ha messo nelle liste del PDL certamente non decide tutti i candidati che sono alla lista né li conosce personalmente. No, però insomma mi sembra che era, come dire, al di là dei toni che sicuramente erano inqualificabili, però il tono mi sembra perfettamente coerente con le varie... Comunque, fatto sta che secondo la legge Lassini non può ritirare la sua candidatura. Bene, andiamo... A Roma, sempre a Roma, Alvaro, buonasera. Pronto? Pronto? Dica. Scusami, buonasera, dunque Alvaro di Fiuggi, non di Roma. Di Fiuggi, va bene lo stesso. Appartenenza sociale. Senti, io dico soltanto che la sento male, Maurizio, la sento male, Maurizio da Verona. Sì, buonasera. Io mi prendo la licenza di dare una visione di questi 18 anni di governo con la maggior presenza di Berlusconi, usando una metafora sessuale, visto che insomma ormai il sesso è dappertutto. La presenza di Berlusconi, per quel che posso vedere io, è mista di potenza, nel senso di potenza per i voti che riesce a raccogliere, no? Ma altrettanto c'è una presenza importante di impotenza, cioè l'impotenza di non essere riuscito a fare le riforme. Prodi con i suoi governi scarcinati è riuscito a incidere un po' di più sulla vita di questo paese. No, come scusi, mi ripeta bene Maurizio, perché sa che è molto facile poi essere raggiunti da una macchina bianca con la croce rossa. Allora vorrei capire questa roba qui, Maurizio, mi scusi. Cioè, allora, lei vuole raccontare la parabola di Berlusconi in chiave sessuale, vabbè, ognuno può fare quello che vuole. Quale sarebbe questa parabola? Allora, diciamo, nel sesso c'è la potenza e l'impotenza, no? Sì, più o meno, ecco. Più o meno. Allora, la potenza... Ci sono anche vie di mezzo, in teoria. Comunque, hanno nel fatto di raccogliere un sacco di voti. Quella è la potenza, Sì, la potenza, diciamo, da questo punto di vista credo che gli vada riconosciuto. Cioè, secondo lei, quando raccoglieva un sacco di voti, in realtà li raccoglie sempre un sacco di voti, la cosa corrisponde al momento di potenza sessuale di Berlusconi. Esatto. E invece adesso... Esatto. E poi l'impotenza si esprime nell'incapacità di mettere a frutto questi voti con un'azione politica, cioè le riforme. Ho capito, dunque non ho capito se Berlusconi è attivo oppure impotente. Scusi, è potente e impotente allo stesso tempo. Ho capito, David? L'Italia, ho capito, cioè lui dice che è da ambulanza, però se ho capito bene la metafora è interessante, perché lui dice nella fase sessuale lui si presenta bene nel petting, nei preliminari, poi dopo quando arriva lì alla fase di governo si ammoscia tutto, e quindi l'Italia da 18 anni è costretta a una condizione di preliminari senza aver mai raggiunto l'orgasmo. È un petting continuo con i suoi, col suo popolo, con gli elettori, quando però si tratta di dimostrare veramente. Siete troppo aurici per me, siete troppo aurici. Grazie Maurizio, grazie. Questo ho capito io, grazie, però poi grazie. La Sorrosa è tornato a dire la sua, No, non c'è collegato, non c'è. Le cose stanno molto peggio, scrive per il manifesto, di come le descrivevo io, stanno molto peggio. Non cita naturalmente la polizia e i carabinieri come se non l'avesse detto, ma rinnova la domanda: come si affronta l'emergenza, il rischio mortale per la democrazia a causa di Berlusconi, della megalomania di Berlusconi, dice? Come? Una delle proposte, anzi no, non fa proposte, rinnova la domanda: ci si può accontentare del residuo sempre più disperato gioco delle parti all'interno delle camere? Cioè, ci si può accontentare della democrazia? No. Noi nel nostro piccolo, modestamente, caro Sorrosa, ci accontentiamo del gioco democratico, ci scusi, ci perdoni, ci perdoni, caro professora Sorrosa, noi ci accontentiamo del gioco democratico. A dopo. Siamo qui 19:16, caro Parenzo, come va? Bene, molto bene. Ti sei ripreso 19:16. In questo quarto d'ora? Andiamo a sentire, sempre attraverso la voce della nostra meravigliosa Maristel Polanco, i titoli del telegiornale del terzo canale della RAI, il TG3. Buonasera a tutti, in questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire. Sul nucleare la retromarcia del governo stoppa nuove centrali, Bersani il governo scappa, i Verdi un trucco per evitare il referendum. Letizia Moratti chiude le porte all'autore dei manifesti anti-PM, io e Lassini incompatibili, il via libera alle scritte forse maturato in seno al PDL. Schifani, PDL si dissoci, Lega basta scontri, vertice maggioranza su giustizia, Pisano al TG3, clima di violenza che può portare al terrorismo. Confindustria deludente, il piano del governo per la crescita, Marchionne sull'expertone, subito una decisione o andremo altrove. Centinaia di migranti provenienti dalla Libia stipati su un peschereccio arrugginito, subito dopo lo sbarco a Lampedusa nasce una bimba. Visita a Roma del capo del governo provvisorio di Bengasi, Mustafa Jalil, al centro dei colloqui guerra, aiuti ma anche rapporti economici. Nelle terre del poligono sardo di Quir trovate tracce di uranio impoverito, le analisi sulle ossa degli agnelli nati malformati. Come dimenticare, caro Parenzo, la performance di ieri sera, l'apparizione radiofonica di Gabriella Carlucci, sindaco di Margherita di Savoia, qui alla Zanzara. Berlusconi è sopra la media, un mito. Io trovo Berlusconi estremamente simpatico. È una persona che sa mettere al proprio lato chiunque sia il suo interlocutore. Ripeto, ha una carica di umanità, di simpatia, innata, personale, e nel suo DNA. Poi, come tutti, ha i suoi difetti, però, ripeto, è sopra la media. Ancora, ancora la Carlucci, poi arriviamo al top. Per mio figlio Berlusconi è un mito. Io ho un figlio adolescente, con tanti suoi amici adolescenti. Per loro Berlusconi è un mito, perché dicono: ah, ma questo è simpaticissimo, è un modo, cioè è un politico che loro capiscono, parla una lingua che loro capiscono, racconta le barzellette, è anche super potente dal punto di vista sessuale. I ragazzini lo ammirano, come la maggior parte degli italiani che vorrebbero essere come lui. Quanti italiani di 70 anni si sognano di andare con le donne dalla mattina alla sera? Pochissimi. Poi dice: potrebbe farsene bastare 2 o 3 alle feste, non 30. Questo è l'unica pecca per la Carlucci. Lui si circonda di tanta gente, perché spesso lui, al di là delle cene politiche, preferisce portare a queste cene, far partecipare a queste cene anche persone di mondi diversi, come appunto il mondo dello spettacolo. Forse invece di prenderne 30 insieme basterebbero 2 o 3, punto. Vieni su da me, che tanto non ci sono. Bene, bene, tra le notizie del giorno, come avete sentito anche dai titoli dell'ottimo TG3, e siamo sempre alla Zanzara 800 24 00 24, c'è anche la questione del referendum. Di Pietro, vi faccio sentire, al di là delle frasi di Di Pietro, c'è la questione politica, cioè il governo, secondo me in maniera assurda, contraddittoria, demagogica, come peraltro la demagogia che il governo ha sempre giustamente, secondo me, preso in considerazione quando parlava dell'86, di Chernobyl, eccetera eccetera, no? Si è sempre parlato della demagogia di Chernobyl, dunque siamo usciti dal nucleare. Stavolta succede la stessa cosa, siccome ci sono le elezioni, c'è stato l'incidente in Giappone, e allora stop al nucleare. Non solo stop al nucleare, stop anche al referendum, perché naturalmente si pensa in questo modo di non arrivare al quorum per gli altri referendum. Questo è l'obiettivo politico, che è legittimo, per carità. Però sentire oggi il ministro Romani che dice stop del governo alla realizzazione delle centrali, e in più dice anche pochi minuti fa il futuro è le rinnovabili, l'energia verde, come se fosse un verde qualunque, francamente mi metto a ridere. Sentiamo Di Pietro. La paura fa 90, e siccome avete paura che il referendum sul nucleare trascini con sé anche un altro referendum prettamente politico che investe totalmente la politica giudiziaria del governo Berlusconi, quello sul legittimo impedimento, voi volete fermare il treno referendario sul nucleare, non perché vi siete pentiti di volere il nucleare, perché non l'ho abbandonato, ma perché non volete che attraverso il nucleare si realizzi anche l'obiettivo di un cittadino elettore che sconfessi la politica giudiziaria e quindi l'esistenza stessa del governo Berlusconi. Va bene, ascoltatori, direi 800 24 00 24, provatemi Lassini intanto, Lassini non lo muovo. Che figura, anche sul nucleare veramente una figura barbina ha fatto il governo. Non lo mollo Lassini, cellulare, chiamatelo. Magari risponde la segretaria di ieri, che è anche simpatica la segretaria. Quella di oggi era diversa, Vittorio da Milano. Buonasera. Dica, Vittorio. Buonasera, no, volevo intanto sottolineare questa cosa qui del referendum. E questa qui veramente avevano già fatto la porcata di separarlo dalle amministrative. Un attimo solo, Vittorio, un attimo. Pronto? Lassini? Lassini? E risponda. numero di telefono di Roberto Lassini, il presunto autore. Pronto? Niente, tanto non risponde nessuno. Non mi confondere con questo sì, se no penso che abbia risposto qualcuno. Siamo preoccupati per via dei camion. Sì. Sta caricando un camion. Come un camion sta caricando? Pieno di roba, ci ha detto la voce. Che ma cosa ha fatto? A slocchi adesso? Niente, Giuseppe da... Ah no, c'era Vittorio da Milano. Vittorio. Buonasera. Allora? Sì, no, ci siamo già salutati. Ma me lo dicevate mezz'ora fa, sarei passato io da casa di Lassini perché sono qui in zona, so che lui è ex sindaco di Turbigo, Arconate. Io sono da queste parti. Magari si trova a Milano in questo momento, non lo so. Magari si trova a Milano, va bene, ok. Questo non, no, stavo dicendo di questa porcata qui che aveva già fatto il governo, quella di separare il referendum dalle amministrative per non far arrivare al quorum, e questa è veramente una porcata. Questa qui invece vedo che sono molto fermi e ferri nelle loro convinzioni, quindi si giocano tutto, ma questi hanno la faccia come il culo, si può dire culo? Sì, si può dire. Forse non si può dire faccia alle volte, però... Però bene, scusi, Vittorio, però la questione è molto semplice. Intanto apprendiamo dalle agenzie, e io in questo momento di fronte allo schermo di Sky TG24, che Lassini ha inviato una lettera a Napolitano. Devo dire che in questi giorni Lassini scrive a Napolitano. Manifesti anti-PM, Lassini invia lettera a Napolitano. Una cosa pazzesca. Pensa che popolarità, che popolarità gli ha dato questa cosa. Tra l'altro, secondo me c'è anche un po' imbarazzo. Prenderà un sacco di voti. E infatti, secondo me, il punto fondamentale è questo. Cioè, sono anche imbarazzati nel PDL, perché alla fine tutto quello che è successo vedrete che porterà la gente, un sacco di gente, a votare per questo candidato. Vittorio, una campagna elettorale gratis si è fatto praticamente. Assolutamente, il punto politico è molto semplice, caro Vittorio. L'opposizione oggi dovrebbe stappare lo champagne se fosse seria, perché il governo cancella l'opzione nucleare e dunque dovrebbe stappare lo champagne. Però siccome anche per loro il referendum era strumentale ad abbattere il governono fa la stessa cosa, cioè voglio evitare che venga raggiunto il quorum dove c'è, per il referendum dove c'è anche quello sul legittimo impedimento, e dunque cancello il referendum, cerco di cancellare il referendum sul nucleare. Molto semplice, cioè, sono giochi politici, a nessuno interessa la sostanza delle cose, la sostanza, l'obiettivo è quello di abbattere il governo oppure farlo rimanere in piedi, questo è il punto. Sì. Aspettavo di parlare con voi, facevo una riflessione. Io faccio il direttore commerciale per un'azienda e ho a che fare con dei clienti. Se io mi fossi comportato così con i miei clienti, con queste faccia tosta, con questi volta gabbana, io non avrei più un cliente, avrei cambiato mestiere, no? Sicuramente. Invece questi veramente ci fanno ingoiare di tutto. Però scusi Vittorio, in politica queste cose esistono, adesso non ci dobbiamo scandalizzare, per carità, in Italia c'è poca sostanza e molta muina, però in politica queste cose esistono. Il governo adesso, in maniera secondo me assolutamente demagogica e totalmente contraria a tutto quello che era stato detto prima, anche sul fatto che non bisogna agire dopo una catastrofe sotto l'impulso di una catastrofe. Certo. Io mi ricordo frasi roboanti dette dallo stesso Berlusconi e da altri, in cui si sottolineava: abbiamo deciso dopo Chernobyl, sull'onda di quella fu una scelta emotiva, adesso invece scellerata, paghiamo un prezzo altissimo. Ma questo è il problema di questa classe dirigente, cioè la mancanza di serietà, o è tutto strumentale, perché se si legifera sull'onda emotiva, ma secondo me il governo francese e il governo tedesco nel corso di questi anni hanno usato questo modo di affrontare le cose fondamentali del loro paese? Non credo, ma è veramente una pagliacciata. Tra l'altro il Giappone, che è il paese dove ci sono stati dei morti per lo tsunami eccetera eccetera, dove però c'è stata una catastrofe nucleare, dunque presumibilmente ci sono già stati morti per l'esplosione della centrale, ma ce ne saranno per le malattie nel futuro eccetera eccetera, non è che prende la decisione di uscire dal nucleare, no? Cioè non ha preso la decisione di uscire dal nucleare, che dovrebbe essere il primo paese. È vero che noi non ci siamo e dunque dobbiamo prendere la decisione di tornare al nucleare. In una zona poi altamente sismica, perché la differenza è questa: in Italia ci hanno spiegato che nelle zone dove volevano fare le centrali non c'era nessun tipo di rischio sismico, peraltro. E allora di cosa stiamo parlando? Cioè io veramente non capisco i dati che ci avevano proposto, anche il professor Veronesi. Io vorrei sentire qualcosa anche dal professor Veronesi. Dopo Fukushima, tutto sparito, tutti zitti, usciamo dal nucleare. Devo sentire il ministro Romani oggi, mi dice il futuro è nelle rinnovabili e nell'energia verde. Ma ti rendi conto? Ci avevano spiegato, tra l'altro, ma ci avevano spiegato che il mix energetico non era possibile perché comunque le rinnovabili non erano sufficienti per i fabbisogni del paese. Ma si mettono d'accordo con loro stessi e con i numeri e i dati che forniscono, o no? Punto di domanda. Domenico D'Andria, buonasera. Ecco. Volevo intervenire sulla questione dei manifesti affissi a Milano. Io voglio capire in base a quali elementi di fatto il candidato del PDL ritiene che nelle procure ci siano le brigate rosse. E vorrei sapere anche chi. Vabbè, Domenico, ritiene... questa è la domanda, come dire, una domanda anche... che non ha risposta, però abbia pazienza. Vorrei sapere per quale motivo ci si ostina a difendere queste posizioni che sono assolutamente indifendibili. Perché oltre a urtare contro l'intelligenza delle persone, perché nelle procure è evidente che non ci sono brigate rosse, cozza proprio contro la storia, per i morti che ci sono stati, cioè sono delle frasi. Domenico, però già siamo già oltre in questo caso, perché la critica sulla, come dire, sulla sostanza di quel manifesto è già stata fatta. Mi scusi un attimo, sì, Domenico. Però anche lì difende, e non capisco per quale motivo difende queste posizioni. Chi difende? Prima ha detto io difendo Lancini. Perché non ho detto questo, questi... attenzione Domenico, io non ho detto affatto che difendo Lassini per quello che ha scritto. Devo dire che per quello che mi riguarda, uno può essere, cioè in questo caso l'indagine per vilipendio alla magistratura, all'ordine giudiziario, mi sembra francamente una cosa assurda. D'altra parte hanno tolto il vilipendio anche alle alte cariche dello Stato, è rimasto questo reato che è il vilipendio all'ordine giudiziario, insomma non mi sembra una materia da tribunale. E credo che ci sia, che sia legittima anche la critica molto forte dal punto di vista politico, naturalmente. È una vergogna usare il termine brigate rosse e accostarlo. Per cui non ho difeso nessuno, guardi, cioè non ho difeso nessuno, guardi, se c'è qualcuno che per quello che riguarda il terrorismo eccetera non può assolutamente difendere questo tipo di espressioni, sono io. La ringrazio, abbiamo la borsa, torniamo tra un attimo, 800 24 00 24. Lassini ci risponda, ci spieghi questa lettera che ha scritto al Presidente della Repubblica. Eccoci di nuovo in onda, 19.35, 800 24 00 24. Dunque c'è una svolta nella vicenda, svolta Lassini. Esatto, svolta nella vicenda Lassini, scrive a Napolitano. Rinuncerò alla campagna elettorale. E poi una lettera di scusa. E una lettera di scusa. Città che si è fatto, mi frega della campagna elettorale. Bravo, questa è un'osservazione corretta. Ormai è inutile praticamente. È come se. Con tutta la pubblicità che si è fatta, tutti quelli che stanno a spendere un sacco di soldi per le preferenze, per farsi conoscere, rinuncerò a fare campagna elettorale. Te credo. È bastato un manifestino. Tac, casino, polemiche, via. Tac. Lassini scrive lettera di scuse a Napolitano. Ma quindi cosa vuol dire? Che si dimette? Da che cosa? Ma no, se uno dice rinuncerò a fare campagna elettorale... No, non può lasciare la... Sì, solo lui può decidere. No, ma nemmeno lui può decidere in realtà. Cioè il nome resta. Il nome resta sulle liste. No, ma lui può scegliere di dimettersi, credo. No, di dimettersi se è eletto dal Consiglio Comunale. Questo dovrebbe dire forse, se fosse coerente. Esatto, certo. Dovrebbe dire se fosse eletto rinuncerei mi dimetterei un minuto dopo. Esatto, questo dovrebbe dire. Immagino intenda questo, forse. No, lui dice... Dopodiché, secondo me, il paese in questo momento, no. Oltre a anche altre, no, però per carità, dramma Lassini, va benissimo, Lassini. Comunque, è un caso importante, comunque significativo, non è un caso... Sì, l'avvocato Lassini, ho letto tra l'altro che ha detto che ha anche dei problemi di debito, no? Ha un sacco di debiti, sì, ha detto oggi, ho letto sulla Repubblica, se non sbaglio. Allora andiamo a sentire intanto di nuovo Lassini, riproviamo. Ecco. Professore? Maestro? Avvocato? Esimio? Signor Lassini, no, non risponde nessuno. Non c'è niente da fare, te lo dico io. No, parlando no, magari è impegnato a scrivere la lettera, si vuole concentrare. No, ha già scritto però sembra, no? No, ha voglio scrivere, l'annuncio della lettera. Voglio scrivere. Sì, voglio, ha deciso di scrivere, magari l'ha già scritta, però magari... Io fossi lui peserei le parole dopo le ultime cosette, diciamo. Beh, è una lettera di scuse, è una lettera di scuse, dunque sicuramente... Ecco. Sicuramente una lettera di scuse... Non c'è... non credo che ci siano valutazioni di altro tipo. Vabbè, tanto non risponde, possiamo anche andare oltre. Direi Flavio, provincia di Monza, buonasera. Buonasera. Dica. Ecco, senta, io volevo difendere Lassini perché secondo me rispecchia il pensiero di molti. Molti, forse lei chi intende? Molti chi? Molti del centrodestra, io penso. Beh, addirittura perché... su che cosa, mi scusi? Allora, cioè la frase via le BR dalle procure? Sì, esatto. Ma io francamente non so nemmeno cosa significa. Ma secondo me si riferisce a tutte quelle toghe sì. che in questi anni hanno voluto fare politica e sovvertire sì. quello che era un voto. D'accordo, ma questo è un ragionamento che si può fare, l'abbiamo sentito, eccetera, eccetera. Contestabile, naturalmente, si può essere d'accordo. È quel piccolo riferimento alle Brigate Rosse che non va bene. Così. Se uno avesse scritto via le procure politicizzate, non se ne sarebbe occupato nessuno. Di questa cosa via le BR dalle procure è qualcosa che va oltre, sa, quando uno usa la parola Brigate Rosse, che in un paese insomma ha avuto un certo ascolti, significato, una certa storia. Ascolti, può essere che le parole siano state eccessive, però no, noi ma è abbiamo... questo il punto, ha capito? Siamo, non è un altro il punto, dove, mi perdoni, siamo in un paese essere. Dove al capo del governo si può dare del buffone ed essere assolti, si possono tirare oggetti ed essere assolti, se ne può dire di tutti i colori ed essere assolti, andare a spiare la sua vita privata ed essere assolti. Cioè, ed essere assolti da, nel senso che nessuno poi può andare a dire a un magistrato guarda che sono 18 anni che lo stanno trattassando. No, ma io avrà tutte le colpe no, di questo mondo. Mi scusi, Flavio, però, Flavio, che ci sia stata, che ci sia stata una solerzia da parte di una di certa stampa e forse anche di una parte della magistratura nell'attivare subito le inchieste su Lassini, non c'è dubbio, anche perché la cosa è riferita direttamente alla magistratura. Che ci siano insulti quotidiani, cartelloni nei confronti del Presidente del Consiglio è un'altra, però bisogna distinguere due elementi. Il primo, il signore è un uomo politico, uno che vuole fare politica, che fa e che vuole entrare addirittura in un consiglio comunale, non è uno che va fuori da un teatro, come ho sentito dire da qualcuno, con un cartello Berlusconi muori, perché insomma quello è un pazzo, un cretino che va fuori con un cartello di questo tipo. Questo signore è uno che è nell'area del PDL e che vuole candidarsi come consigliere comunale a Milano, che non è proprio una delle ultime città in Italia. Dunque c'è una piccola, allora, c'è una piccola io, differenza o no? Ha ragione, però io che poi un'altra critica che è stata fatta a Napolitano, cioè, un'altra critica è stata fatta a Napolitano, perché interviene solamente sulla vicenda Lassini, non interviene quando con Asorrosa. Danno del, no, Asorrosa non c'entra nulla, danno del malato a Berlusconi, ma anche con Asorrosa, scusi, ma può intervenire Napolitano su Asorrosa che fa un'intervista no, al Manifesto? Sembrerebbe Dio. Una follia. No, uno può dire Dio, però la magistratura dovrebbe intervenire in determinati discorsi, invece non interviene mai, e comunque Napolitano non ha mai difeso Berlusconi quando è stato attaccato in modo a dir poco orrendo, insomma. Ho capito. Non mi viene la parola, magari. Va bene, Flavio, ho capito. Ma quello benissimo. Che voglio dire io è che noi abbiamo, continuiamo a avere dei magistrati che sono politicizzati, poi finiscono il loro lavoro e entrano anche in politica. Dove? Nel partito di centro-sinistra. Ma quello guarda non c'è, ci sono molti magistrati, ci sono molti magistrati anche dall'altra parte. La ringrazio, Flavio. 800240024 è con noi, caro Parenzo, il sottosegretario alla giustizia, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Buonasera, signora Casellati. Buonasera. Come sta? Bene, bene, grazie. Lei? Dove si trova in questo momento? A Padova sarà. No, sono a Roma al Ministero, altro che Padova. Perché dovrebbe essere a Padova? Scusa, ma perché Parenzo. È una mia concittadina. Ho capito, ma non è che tutti, non è che sono tutti come però, te che... Però Sant'Antonio non mi ha concesso il dono della vilopità, l'ho invocato, ma non è successo. Sant'Antonio non le ha concesso il dono dell'ubiquità, questo voleva dire, certo. o sbaglio. Ma scusi un attimo, Parenzo, ma non è che tutti quanti sono a casa oggi, come fai ma tu, no, che sei a penso. Siena, abbi pazienza, ma la gente è al lavoro. L'avvocato Casellati da tanti anni e so che spesso torna nel suo collegio elettorale, non ho mica detto una bestemmia, insomma. No, quindi, no, perché... è vero che torno, il fine settimana in genere torno. Senta, ecco. Signora Casellati, ma questo Lassini che dovrebbe fare secondo lei? In questo momento ha deciso di scrivere una lettera a Napolitano di scuse, poi dice che non fa più campagna elettorale. Che ne facciamo con questo Lassini? Ma guardi, Lassini a mio parere ha sbagliato. Ecco. Perché fare un manifesto fatto della sua campagna elettorale personale contro la magistratura, con un programma su una città di Milano che è un'altra cosa, perché siamo alle amministrative, ci dobbiamo occupare di tutti i problemi del territorio. Glielo dica anche a Berlusconi. Questo mi pare francamente un fuor d'opera e neanche di tanto buon gusto. Cioè, scusi, la cosa grave è che ha un po' disturbato la candidatura della Moratti o la elezione della Moratti a Milano, oppure quello che ha scritto, no? Perché vorrei capire, mi scusi. No, guardi, adesso io non sto parlando della candidatura della Moratti, che mi pare che vinca a prescindere. Beh, insomma, questo secondo i sondaggi non è così. Comunque, insomma. Comunque, questo è quello. Tutto, i nostri sondaggi dicono diversamente, però lasciamo per poi l'esito alle urne. Però quello che io non condivido il contenuto. Ecco, lei davanti a un cartello, via le biere dalle procure, cosa pensa? Che c'è un fondo di verità o no? BR dalle procure mi pare francamente una esagerazione, cioè le Brigate Rosse hanno insanguinato il nostro paese, si tratta di un terrorismo, a me sembra che questa equazione non sia applicabile alla magistratura. Altro discorso è dire che una parte della magistratura, piccola parte, continua a sostenere che la maggior parte lavora e fa bene la propria professione per il nostro paese, una parte politicizzata, paragonarla alle Brigate Rosse francamente non lo condivido. Scusi un attimo, però lo stesso Lassini oggi in qualche intervista dice una cosa molto precisa, per esempio a Repubblica: quello slogan è forte, è vero, ma riprende quanto detto da Berlusconi sul brigatismo giudiziario di certi magistrati. Ha ragione Lassini, purtroppo. In un'altra occasione Berlusconi ha parlato di cellule. Ora, per carità, è diverso dire via le BR dalle procure, un'espressione molto diretta in cui c'è proprio la parola BR con la sigla quasi, no? Berlusconi ha parlato anche di golpe giudiziario. Golpe giudiziario. Però il golpe giudiziario può essere un'accusa, come dire, politica, che viene fatta a certi settori della magistratura, diciamo, può essere giusto. Ma le parole hanno un peso. La vicenda Lassini deve insegnare a noi, anche alla senatrice Casellati, sottosegretario alla giustizia, che bisogna calibrare le parole, collegare il cervello alla bocca un po' di più. Ecco, signora Casellati, Berlusconi sbaglia quando parla di brigatismo giudiziario, di golpe della magistratura, o no? Berlusconi non sbaglia, nel senso, adesso ogni parola che viene pronunciata da Berlusconi viene sempre enfatizzata e strumentalizzata. Quindi c'è un golpe in corso. Non siate mai. Berlusconi è purtroppo amareggiato da una situazione che è inaccettabile, perché da quando è sceso in campo ha subito più processi di Al Capone. Voglio dire, non è possibile che Berlusconi politico, su di lui non c'è macchia come politico, però come imprenditore dal 1994, da quando è sceso in campo, si è scoperto che ha commesso moltissimi reati, e ha commesso moltissimi reati che sono precedenti. Ho capito. Senta, però alla sua attività le voglio chiedere una cosa. Dunque prima però non era. Vabbè, a parte che anche su questo c'è discussione, perché alcuni dicono che alcuni processi sono iniziati prima, ma non voglio entrare su queste cose. Ma non è vero. Vabbè, ma non è vero, d'accordo. Non è vero, perché non sarà vero, ma tutti chiusi con archiviazioni e quindi Berlusconi oggi tutta la discussione sul vorrei capire da lei è incensurato. Sì, d'accordo. Berlusconi è incensurato. Ma questo lo sappiamo, è incensurato. Allora, no, le vorrei chiedere una cosa. Secondo lei la Procura di Milano sta facendo nei confronti di Berlusconi un golpe giudiziario? Cioè, ci sono delle cellule all'interno della magistratura di Milano? Come le definirebbe? Il fatto di calcare sulle parole non mi piace, perché rende strumentale qualsiasi tipo di discorso. Allora lei come li definisce questi magistrati, per esempio, che stanno indagando sul caso Ruby? Politicizzati, perché sappiamo che c'è una piccola parte, ma molto organizzata, di una corrente di magistratura che pensa di rovesciare la storia del nostro paese attraverso sì. le sentenze. E chi è il capo di questa, allora, di questa parte organizzata? Scusi, questo non è un discorso recente, è un discorso che purtroppo torna quasi come un disco rotto da troppo tempo. Ce ne parlava quando è stata stabilita l'immunità parlamentare dei nostri padri costituenti, era proprio il timore, ma lo diceva Togliatti, che non lo dico io, lo diceva Togliatti. Si legge nel discorsi della costituente che il timore era allora dei magistrati chiaramente di destra, fascisti, e quindi avevano posto l'immunità parlamentare proprio a salvaguardia delle ragioni del. Ho capito, però adesso non andiamo a Togliatti. Signora, chi è a capo di questa parte organizzata? Chi è a capo di questa parte organizzata? C'è un capo, c'è una struttura di questa parte? Lei dice c'è una parte organizzata. Ma io non so se ci sia un capo, ma c'è, io so sicuramente che c'è una parte organizzata. Organizzata, cioè diventa irrilevante trovare i capi. Purtroppo voglio dire, se è organizzata ci sarà un leader. Gli obiettivi possono ottenere o vorrebbero benissimo ottenere. Tra i nomi di questa parte organizzata, altrimenti uno parla. Non faccio un nome, guardi, non mi appassiono. Guardi, non funziona così, perché adesso avete lasciato, mi tocca difendere il povero Lassini. Avete lasciato solo Lassini perché ha fatto un manifesto, come dire, alquanto temerario, quando fino a ieri i toni usati dal centrodestra erano simili a quelli di Lassini. Quindi non funziona. Il povero Lassini va difeso a questo punto, perché ha tirato la palla semplicemente un po' oltre quella oltre la quale l'avete già tirata voi. Tra l'altro, Lassini libero, Lassini innocente, Lassini libero, Lassini candidato, è innocente. Guardi, capisco perfettamente quello che sta dicendo, però qui non c'è, c'è una campagna elettorale che riguarda la città di Milano. Ma cosa c'entra? Ho capito, ma lo dice a me, mica lo fate io i cartelli. Di una città. Abbiamo un'elezione amministrativa. Ho capito, ma non li ho fatti io i cartelli, signora Casellati, li ha fatti un vostro candidato, mica io. Infatti ho detto che non condivido, mi pare un fuor d'opera, francamente. Tra l'altro c'è una notizia che è appena arrivata, non solo Lassini si scusa con Napolitano, ma rinuncia alla sua candidatura, cosa che era stata esclusa fino a pochi minuti fa in realtà. Cioè, la rinuncia. La decisione che sarà sua l'ha presa lui, e io non so. No, ho rassegnato le dimissioni irrevocabili. Ho rassegnato le dimissioni irrevocabili dalla lista del PDL nelle mani del coordinatore regionale Mantovani. Sembrava che non si potesse fare una volta presentate le liste, anche a difesa degli stessi candidati e delle firme che sono state raccolte per. Un attimo. Di vista tecnico, non so risponderle. Che dicevi, Parenzo? No, che a questo punto si dimettessero tutti coloro i quali hanno dato toni forti e irricevibili nei confronti della magistratura, quelli che hanno parlato di golpe da parte di alcuni magistrati, si devono dimettere, non solo il povero Lassini. Lassini sta pagando per tutti, mi tocca difendere Lassini. Però golpe, scusa un attimo, però golpe è un'altra cosa, uno può utilizzare. Ma non un'altra, le parole hanno un senso in politica. Sì, però l'accostamento tra le BR è il punto fondamentale, non è tanto. Se no si può dire qualunque. Il colpo di Stato non è grave in un paese democratico? Evocare il fatto che alcuni magistrati scientificamente starebbero facendo un colpo di Stato. Questo ha detto la maggioranza e il capo del governo. Signora Casellati, lei dice questo. Ma che voglio dire, un conto. Signora Casellati, lei parlerebbe di colpo giudiziario. No, io capisco quello che dice Parenzo, non lo condivido per il semplice fatto che è vero che le parole hanno un loro peso, ma non è il peso che gli stanno attribuendo. Allora, quando noi diciamo che politicamente si tenta di rovesciare una investitura parlamentare che è stata popolare, e dunque si vuole fare un golpe. Non possiamo dire però che si tratta di un brigatismo che ha per far questo insanguinato. Quindi colpe, parliamo degli anni no. di piombo quando parliamo di brigatismo, non parliamo di persone che hanno fatto un colpo di Stato attraverso massacri. Brigatismo di un colpo di Stato fatto attraverso una sentenza. Cioè, secondo lei si può parlare di colpo di Stato invece? Colpo di Stato attraverso le sentenze? Di questo si può parlare invece? Io dico, c'è stato, ma non soltanto nei confronti del centrodestra, abbiamo visto che è caduto anche Mastella sotto la scure, quindi il centrosinistra, di una sentenza di un giudice. Io non sto parlando Io sto parlando che oggi esiste uno squilibrio di poteri, che per cui noi abbiamo una politica che è sotto scacco della magistratura. Noi c'è sicuramente un'autonomia, un'indipendenza della magistratura che noi vogliamo assolutamente rispettare perché è un dato costituzionale, ma non c'è un'autonomia, un'indipendenza della politica oggi perché è sottoposta a tutto, a tutte si fa una legge. Senta, però brigatismo giudiziario è un'espressione utilizzata da Berlusconi, l'ho detto anche lo stesso Lassini, oggi adesso io non me la ricordo in che contesto, brigatismo giudiziario l'ha detto Berlusconi, brigatismo giudiziario, o no? Signora Casellati. Non so in quale contesto l'abbia detto, le parole vanno sempre viste in un contesto nel quale vengono affermate. In un contesto, però è brigatismo giudiziario. Ho preso una parola estratta e poi piazzata non mi piace mai. Ma scusi signora Casellati, se io dico e non lo dico. Berlusconi ha parlato sempre molto chiaramente dicendo di essere un perseguitato politico. E lei secondo lei è un perseguitato? L'ha detto in maniera molto chiara. Secondo lei è un perseguitato politico? Con le parole non mi appassiona. Secondo lei è un perseguitato politico? Sicuramente sì, cioè, voglio dire da 1994 ho capito. Tutta una serie di processi, ha avuto in 15 anni 28 processi, però 10 assoluzioni. Ho capito. Senta, esiste il patto? 70 udienze, 1000 magistrati. Ho capito, non ci faccia le cifre. No, ma tanto l'abbiamo già sentito da Berlusconi. Allora lei perché mi fa la domanda? Io le faccio la domanda. No, ma lei ha risposto. Ha già risposto alla domanda, è un perseguitato politico. Benissimo. Ma non mi faccia rispondere come vuole lei. No. Mi faccia rispondere come voglio io. Ma ho capito. Siccome lei ha detto è un perseguitato politico, poi ci sta enunciando una serie di cifre dei processi subiti da Berlusconi. Per dimostrarglielo. Ma certo, d'accordo. Perché le mie parole non siano apodittiche. Ma assolutamente. Però io non è che affermo tanto per dico dimostrandoglielo. No, d'accordo, ma dimostrandoglielo, ovviamente evocando. Per tabula. Senta, signora Casellati, il patto fini magistrati esiste perché l'ha detto Berlusconi, vuole capire se esiste. Ma guardi, il patto fini la magistratura si è visto da come sono andati a braccetto sempre per tutto quel pezzo di legislatura che ha visto Fini in contrapposizione su tutti quelli che sono stati i provvedimenti che sono stati varati dalla Camera, dal Senato, sempre con dichiarazioni all'unisono. Dunque Fini è andato a braccetto con la magistratura per un periodo. Nonostante un programma, perché se sono cofondatori del PDL vuol dire che cofondatori, visto che le parole mi pare che debbano avere sempre un significato, significano cofondatori Berlusconi ha parlato di un patto, proprio di una sorta di patto molto stretto, addirittura con riunioni e cose di questo tipo. Ne parliamo subito dopo la pubblicità. 800 24 00 24. Siamo qui alle 20 in punto, caro Parenzo, 800 24 00 24. Che stai facendo? No, sto andando in macchina, c'è mia figlia che piange perché è dispiaciuta perché Lassini ha lasciato. A tua figlia è dispiaciuta perché Lassini ha lasciato? Sì, le ho raccontato della questione di Lassini, vero amore? Lassini? Cercate di chiamarmelo un attimo, nella conferenza stampa che ha convocato in serata a Milano, Lassini, l'autore dei manifesti anti-PM, ha parlato... Cos'è Lassini? Lassini è quel signore che ha scritto quei manifesti delle... Vabbè, non cercare di spiegare, di indottrinare tua figlia come fanno Umberto Eco e compagni. Esatto, nella conferenza stampa che ha convocato in serata a Milano, Roberto Lassini, autore dei manifesti anti-PM, ha parlato delle sue dimissioni irrevocabili della lista elettorale. Cioè fa una conferenza stampa e adesso potrebbe rispondere tranquillamente al telefono, signor Lassini. O no? Mi piace perché paga per tutti, capito? Dovrebbero dimettersi tutti quelli che hanno usato toni analoghi. E non ci sono scuse. Sì, da una parte e dall'altra, però, non di candidare. Ma Vabbè, per carità, però chi ha detto che c'è un golpe giudiziario in corso, cioè, ci vorrebbe dimettere. Ma adesso se ha detto questo del golpe giudiziario in corso, certo. Golpe giudiziario, signora Casellati, ha sentito Parenzo? Diciamo a dire, chi parla? Lassini, caro Lassini! Come andiamo? Ma guardate i TG, guardate i TG. Come andiamo, caro Lassini? Guardate i TG. Che c'è sul TG? Seguiamoli insieme. Seguiamoli insieme. Seguiamoli insieme, seguiamoli insieme. Che c'è? Grande Cruciani, lei è troppo simpatico. Seguiamoli insieme, che c'è? I titoli, vuole sentire i titoli su di lei? No, almeno perché non ho la televisione, guardi, io faccio sentire che stiamo sentendo, vediamo TG5, vediamo un po', no, ma già c'è la questione di Lampedusa, diciamo già oltre i titoli, siamo già oltre i titoli, vediamo un po' la 7 beh, che c'è, io meno del primo titolo ormai. Però i titoli ce li abbiamo, adesso sentiamo il TG1, però il TG1 di Minzolini mi sa che su, non so se c'è il titolo, lei che dice Lassini, facciamo una scommessa, c'è il titolo o no Lassini? Guardi, non so, sono andati via adesso le scuse. Secondo lei TG1 ha fatto il titolo o no? Non me ne intendo, a me lo chiede, scusi, a me chieda che TG1 di Minzolini. No, vabbè. Adesso prima di mandare il TG1 però di Minzolini, vorrei chiedere una cosa. Mi dice in questa lettera a Napolitano cosa c'è scritto? L'abbiamo già letta, adesso sembra quasi di ridicolizzarla. No, dove l'ha già letta? Cosa seria. No, la conferenza stampa l'ha letta, mica con noi l'ha letta. Ho capito, però basta quello, dai, la vostra trasmissione ha più un tono giustamente. No, ma che tono? Ma adesso voglio dire, lo sa, noi andiamo, siamo seri, ogni tanto siamo seri, ogni tanto siamo un po'. Siamo anche giornalisti, forse. Facciamo i giornalisti, adesso non sto scherzando. Non sto scherzando, c'è profondo rispetto nei confronti delle istituzioni. Sì. Questo che viene manifestato. No, ho capito, però mi può leggere quanto è lunga questa lettera? Mi sembra inopportuno leggerla. Ma come inopportuno? L'ha detto in conferenza stampa, lo faccia con noi, no? No, ma guardi che non stiamo... Non abbiamo letto in televisione, Cruciani. No, Lassini, ho capito, ma qui siamo alla radio, se mi fa la cortesia, ma non sto dicendo, non la sto prendendo in giro, davvero, sto parlando seriamente, c'è una questione seria questa qua, è collegata con noi anche il sottosegretario alla giustizia, la signora Casellati, che la sta ascoltando. Cioè, non mi pare una allora, cosa... Allora, io ho chiesto scusa per aver in qualche modo patrocinato questi manifesti sbagliati, e ho chiesto scusa al Presidente della Repubblica nei termini che ho spiegato alle televisioni. Lo spieghi anche alla radio, c'è qui il sottosegretario alla giustizia, signora Casellati, glielo dica lei che può spiegare tranquillamente queste cose qui. Illustrissimo Presidente, le parole da lei espresse in merito. Ricominci, scusi. Ma scusi, lei adesso mi toglie la parola. No, non lo sto togliendo. Illustrissimo, pronto? Sì, dica. Ecco, illustrissimo Presidente. Le parole da lei espresse in merito alla nota vicenda dei manifesti affissi a Milano mi hanno profondamente toccato. Non lo dico per compiacerla, né per riscattarmi, ma perché condivido l'attaccamento allo Stato e il rispetto delle istituzioni democratiche da lei richiamati. Mi rendo conto che il messaggio espresso in quel manifesto, da me in qualche modo patrocinato, tradiva una rabbia personale con cui ho convissuto per anni e non teneva in giusta considerazione il dolore di altri italiani e l'attacco non voluto al nostro Stato. Di questo sono amareggiato e pentito, di questo chiedo pubblicamente scusa a lei, che rappresenta la nostra Repubblica, il popolo italiano. Sono uomo di legge, che ne ha subito le sue mani storture e che tuttora ne osserva, ma che nella legge e nella democrazia non ha mai smesso di credere, prima come cittadino, poi come imputato nel processo ed infine come avvocato. Ho sbagliato nei termini anzidetti, vittima di un sentimento di rivalsa e spinto dal desiderio di dare una scossa che consentisse di trovare soluzioni affinché nessun italiano viva la giustizia come un'ingiustizia, come è successo a me. Allora uomo delle istituzioni e come accade oggi per altri uomini delle istituzioni. Ciò non mi giustifica, lo comprendo e ne sono convinto, è giusto che renda conto di quello che ho fatto a quel popolo italiano verso cui ognuno di noi a doveri inalienabili. Voglio accettare le mie scuse più sentite, che rivolgo anche e soprattutto a tutte le vittime del terrorismo e di loro familiari che con il dolore devono convivere. Ho poi aggiunto che ho rassegnato le mie dimissioni irrevocabili nelle mani del coordinatore regionale del Popolo della Libertà, senatore Mario Mantovani, e che comunque la nostra battaglia, che ha raccolto tante adesioni in questi giorni da parte di altre vittime dell'ingiustizia o anche di soggetti che disinteressatamente, anche non avendo subito torti, hanno manifestato la loro solidarietà, continueremo nella battaglia per sostenere la riforma della giustizia penale portata avanti dal governo Berlusconi. Ma questo è nella lettera, quest'ultima parte anche? Sì, è nella mia dichiarazione. Sì, nella dichiarazione. La lettera dov'è che si fermava, signor Lassini? La saluto. No, no, perché mi saluta? Qui c'è anche il sottosegretario della giustizia, la voglio chiedere, ma alla fine... Ah, scusi, no, c'è anche fosse finito tutto. No, siamo qui. Bravo, comunque, lettera mi è piaciuta, devo dire. Vedete, Parenzo, trova l'approvazione di Parenzo, più di questo, Lassini. Si preoccupa adesso. Per carità, ma questa storia della rinuncia alla candidatura, seria. Non si può rinunciare alla candidatura, o si può rinunciare? Ah sì, ma guarda, io oggi ho smesso di fare l'avvocato, per cui bisognerà chiedere a qualche mio collega che abbia fatto delle ricerche. Le mie sono dimissioni serie ed irrevocabili, quindi... No, d'accordo, ma qualcuno ha detto oggi, sentendo anche il Viminale, che in realtà dalla candidatura... Ma lei di Radio 24 Ore chiede ai suoi esperti, che ne so, io le dico che le mie sono dimissioni irrevocabili rassegnati nelle mani del coordinatore regionale. Ho capito, se non si potrà... Metta che lei viene, non si può togliere il nome e viene eletto al Consiglio Comunale, che fa? Ho capito, metta che torniamo indietro di una settimana, che non succede nulla e sono ancora Roberto Lassini di prima, cosa le devo dire? Chi è che ha ispirato, chi è che ha ispirato questi manifesti, signor Lassini? I principi ci ispirano. No, d'accordo, i principi qui, d'accordo. Le dimissioni, non ho capito la domanda. No, chi è che ha ispirato questi manifesti? Il motto. La persona che li ha ispirati, chi è? Oh, mamma mia, ho capito, lei vuole fare un'indagine. No, un'indagine, per carità, ma non lo sa. Vabbè. A me sembra di essere già stato chiaro sul punto. Cioè, li ha ispirati lei? È stato lei a dire a qualcuno, scriviamo le BR via... Cioè, chi è che ha pensato via le BR dai tribunali, dalle procure? Io leggo sempre Guida al diritto, Sole 24 Ore, vabbè, c'è questo tono, ok. No, perché questo tono? È una domanda, è una domanda, non mi pare una domanda inquisitoria, è una domanda normale. Ma mi sembra che la mia già detto, no? Ma io ho patrocinato in qualche modo, nel senso che ho espresso il mio convincimento come difensore rispetto a quelli che erano i manifesti fatti da altre persone, insomma, mi sembra di averlo detto in tutte le salse, cioè, che cosa le devo aggiungere? Dunque, ecco, lei... Però vede, Lassini, io so che lei ha subito un danno della sua vita perché è stato arrestato, portato via con le manette e poi è innocente, quindi è una vittima del sistema della giustizia, lo dico senza ironia e con grande rispetto. Temo che quel manifesto e il modo che ha in generale il PDL, perché adesso lei ha pagato per tutti, diciamo la verità, io ho anche una simpatia oggi per lei, perché lei, a differenza di altri, si è preso la briga di scrivere una lettera al capo dello Stato, di chiedere scusa ai cittadini italiani e ai magistrati, e la vicenda si è chiusa. Onore al merito a Lassini, ma molti suoi compagni di partito usano toni simili ai suoi. Io condivido quello che dice Parenzo. E invece lei è una persona per bene. No, perché ma non è ironico, è veramente così. Posso rispondere, sono andati avanti ad azzannarmi tutte e due. No, ma che azzannarla? Non lo stiamo azzannando, stiamo dicendo che lei non mi fa rispondere. Ironico. Dica. Ascolti, allora, Parenzo mi sta dicendo una cosa che io non condivido, cioè? Perché la PDL è fatta di varie persone, come tutti i grossi partiti, e le persone che io stimo, che nella PDL avevano accettato la mia candidatura, che mi sono vicine, sono persone serie. Non è vero quello che sta dicendo Parenzo. E io non sono lontano dalla capacità di comprendere che c'è un programma politico a cui io partecipo. Quando dico che sosteniamo la riforma del governo Berlusconi, riteniamo che la riforma del governo Berlusconi sia portata avanti da persone serie. No, ma questo, io ci credo davvero. Ma guardi, questo non è in discussione, mica era quello che diceva Parenzo. Mi creda, la nostra posizione, la mia vicenda processuale è stata diversa, ogni vicenda processuale è diversa. Sì. Noi abbiamo avuto pacatezza nel nostro processo. Io poi, tra l'altro, guardi, ero un tangentopolino, mi chiamavano così i miei compagni, dicevano tangentopolino, però ero diventato il sindaco del quinto raggio, no? Ecco, la soddisfazione più grossa è stata che un mio compagno di cella divenne poi mio cliente in un secondo momento. Però le dico, ognuno ha il suo stile, chiaro, nell'ambito di un grande partito ognuno ha il suo stile, però mi creda, ci sono persone molto serie che io condivido e che intendo appoggiare e sostenere. Senta, perché non chiede scusa anche ai magistrati associati alle Brigate Rosse, oppure non è il caso secondo lei? Non ho capito, scusi la domanda. C'è da chiedere scusa secondo lei anche ai magistrati, oltre che al Presidente e alle vittime del terrorismo, eccetera, eccetera? Il Presidente della Repubblica è la massima carica della magistratura anche. Però lei non chiede scuse ai magistrati? Allora, ascolti, io ho inteso dire che chiedo scusa nei termini anzidetti, ho usato nella mia lettera questa espressione perché ritengo di aver patrocinato ex post questi manifesti. Ho fatto questo outing per quello che erano le mie responsabilità personali, di avere una presidenza onoraria di questa associazione, sì, niente di più, sì, niente di meno. È chiaro che se quel manifesto venisse inteso come una critica e come un'offesa nei confronti dei magistrati, è logico che nei loro confronti io chiedo scusa. Dunque lei dice chiedo scusa anche ai magistrati? Se si ma sono... assolutamente sì, ma assolutamente sì. Io non ho mai inteso mancare di rispetto all'istituzione. Non è mai stata mia intenzione. Guarda, io sono piccolo, non sono un grosso, ma per carità, ma è... un grosso professionista, però quei pochi che mi conoscono penso che sappiano che sono un tipo pacato, non ho mancato di rispetto a nessuno. Non sono ironico, Lassini, lei per questo ha pagato questo prezzo di doversi dimettere. Ma io non ho detto che è ironico, ma guarda che lei, Parenzo, mi è anche estremamente simpatico, io no, mi seguo ma sempre. Lei ha pagato questo prezzo, io non sto scherzando. Un attimo solo, Parenzo, questo... voglio chiedere un attimo una cosa a Lassini, che è questa. Quando lei ha detto che in realtà questa frase qua riprende quanto detto da Berlusconi, c'è anche questo a sottolineare, ce lo può ripetere questa cosa qua, cioè le stesse cose che sono espresse in quel manifesto sono più o meno quelle che ha detto Berlusconi. Vabbè, ho capito, è vero, in parte mi risulta che sia vero, certo che è una sintesi sbagliata, ho chiesto scusa, ma adesso non voglio ritornare su questo tema. Cioè è vero che quella frase lì insomma non è molto distante da quello che ha detto Berlusconi in alcune occasioni. Guarda, adesso sono abbastanza stanco, sono in uno stato d'animo abbastanza difficile. A me pare di aver già detto tutto oggi. Spero che vinca la nostra lista. Ecco. Comunque andiamo avanti. Scusi, lei resta in lista o no? Questo voglio capire fisicamente. No, io non sono più in lista. Che lingua glielo devo dire? No, ma è al suo posto. No, al suo posto, vabbè, al suo posto qualcuno, nessuno probabilmente, non è che per forza bisogna mettere qualcuno al posto di Lassini. Va bene, grazie signor Lassini. Grazie, auguri e buon lavoro. Grazie, grazie. Pubblicità, torniamo subito. Eccoci qui, signora Casellati, ha sentito? Sì, ha sentito. L'abbiamo fatto vivere in diretta questo momento di conclusione di questa vicenda, no? Mi sembra, no? Con questa rinuncia, secondo me non si può rinunciare, però poi vedremo, lui dice quella rinuncia. Quella è una questione soltanto tecnica. Insomma, se resta nella lista e viene eletto, perché poi alla fine può anche finire così, perché la campagna elettorale è praticamente vedremo già... Vedremo quel che succede. No, certo. Da un punto di vista tecnico non lo so dire, sì, non avendo esperienza in questa materia, e quindi mi pare che abbia espresso con molta chiarezza il suo punto di vista... E si chiude qua questo capitolo. No, si chiude qua proprio per niente, inizia qua. Perché? Inizia qua perché avete alzato molta simpatia per Parenzo, anche per la vicinanza territoriale, è un padovano doc. Abbiamo iniziato quanto Parenzo 20 anni fa a far televisione, io ho partecipato a delle sue trasmissioni padovane in alcune televisioni. Sì. Penso 20 anni fa. Forse 20 anni no, però 15. Senta, sì. Signora Casellati, cosa ne pensa di un magistrato? Però, come... voglio dire, non Parenzo non può a tutti i costi per andarci contro favorire una, mi sembra che sia un ragionamento un avete po' alzato troppo l'asticella, senatrice, avete alzato troppo l'asticella, ma tanti quando altri alzano l'asticella troppo. Però tanti altri alzano l'asticella, ho capito cosa significhi alzare l'asticella, mi manca il parametro di questa dimensione. Senta, signora Casellati, però le voglio chiedere rispetto a che cosa le voglio chiedere una cosa, signora Casellati, ed è questa: un magistrato oggi ha detto, Armando Spataro, un magistrato importante, i magistrati adoranti piacevano molto al duce e anche oggi a qualcuno piacerebbe disporre di una magistratura come quella, con riferimento a Berlusconi. Come il duce, Berlusconi vuole le toghe adoranti. Mi dia una... Guardi, allora io posso rispondere soltanto in questo velocemente, modo. Poi c'è io il traffico. Io ho sempre molto rispetto della magistratura, però non mi piacciono queste espressioni. Sì. Io credo che Berlusconi invochi solo giustizia e invece Spataro forse farebbe meglio in questo momento a non erigersi come censore, perché Spataro è quello che ha mandato la mail list a tutti i magistrati, è stata pubblicata sul Corriere della Sera dicendo, specialmente a quelli che lavorano qui nel mio ministero della giustizia, che non devono collaborare col governo. Allora quando uno dunque come lo definisce Spataro? Quando uno stabilisce una sorta di contrapposizione istituzionale, questo non va bene e non fa onore, diciamo, a chi dice queste cose. Dunque, da questo punto di vista io è eversivo? Sono molto rispettosa dei punti di vista di tutti, però forse Spataro, che dice che da sempre, perché questo l'aveva fatto già ai tempi di Castelli, che aizza sempre tutti quanti a mettersi contro, allora questo non mi pare che sia quell'autonomia e indipendenza e comunque quella terzietà della magistratura così vorrebbe. Ho capito, dunque da questo punto di vista è eversivo Spataro, cioè vuole mi dia una definizione di Spataro quando fa queste cose. Lei cerca sempre, capisco adesso il titolo Zanzara, cerca sempre di punzecchiare, altrimenti cercando qui di succhiare, come le zanzare succhiare il sangue, succhiare qualche espressione che io non voglio adottare. Benissimo. Ma guardi che non è che le adesso parlando di eversione o parlando di questo, io esprimo dei concetti. Sì, sì. Dopo li traduca lei come li vuole tradurre. Ma non li voglio tradurre. Non ho parlato di eversione. Quando lei dice aizza tutti a mettersi contro il governo, cosa significa? Io sto neanche dando un giudizio dicendo non mi pare che possa proprio farlo lui, però io sto fotografando un fatto di fronte al quale a me fa sempre piacere che siano poi i cittadini, gli ascoltatori, quelli a giudicare. Ho capito. Noi partiamo da una radiografia. Allora diciamo che è la sua poi. Non la mia radiografia, questo è stato riportato sul Corriere della Sera. La mailing list, la sì. No, il fatto che abbia radiografia del Corriere della Sera. No, il fatto che abbia mandato la mailing list è chiaramente un fatto, su questo non ci sono dubbi, è chiaro. Allora voglio dire, è giusto dire ai magistrati che di non collaborare con noi. Guardi che io su Spataro sono stato molto più duro di quanto non sia stato lei prima, e io ho detto che un magistrato non deve andare in televisione a dire quelle cose, me lo dica anche lei se ci crede, non sia diplomatica. È certo che lo deve fare. Che ci può andare, secondo... dovrebbe evitare di andare in televisione proprio tout court, secondo me sì, secondo lei? Secondo me non dovrebbero mai andare in televisione, perché c'è, credo, un dispositivo del un regolamento. Adesso non lo so, comunque mai in televisione. Cioè, ma in televisione, ma scusi, le inchieste non devono avere faccia. Ma guardi, non lo sto criticando per questo. Volevo semplicemente che lei dicesse, se ci crede, che i magistrati non devono andare in televisione perché parlano attraverso le sentenze. Abbiamo il traffico. Siamo qui 20:21, abbiamo qualche ascoltatore prima di tornare con qualche domanda finale con la signora Casellati, Elisabetta Casellati, sottosegretaria alla giustizia. Parenzo. Sì, caro sì, mio, sì. Aspetta 10 minuti e poi ti lascio, eh. Anzi, sì, forse no, come da accordi. Come da accordi precedenti, perché signora Casellati deve sapere che è il secondo giorno della Pasqua ebraica ed essendo Parenzo ebreo. Un laico, ebreo laico. Un laico festeggia la Pasqua ebraica, noi siamo tutti molto vicini a Parenzo, essendo io un grande come dire, sostenitore della causa israeliana, ma questo non c'entra niente con la Pasqua ebraica, naturalmente nulla, sono due cose completamente diverse. No, va bene lo stesso. Cristiano da Milano, buonasera. Buonasera, dottor Cuciani. Dica. Io chiamavo perché volevo praticamente mettere luce su tre concetti fondamentali. Adesso, tre concetti, partiamo da uno, poi vediamo se abbiamo tempo. Il concetto principale, io penso sicuramente, è che dietro il manifesto di Lassini ci siano più di due mani e sicuramente non esiste una sola persona. Cristiano, c'è un'indagine in corso, oggi si è fatto anche un altro nome, eccetera, eccetera, vedremo, insomma, non è che possiamo... fare illazioni. Secondo me lo sapevano tutti di questi manifesti, tutti i dirigenti del PDL locale, i principali dirigenti. Però, insomma, poi non è che si possono fare i processi alle intenzioni. No, per carità, però c'è uno che si è assunto la responsabilità. Se uno che si è assunto la responsabilità, ha detto di rinunciare alla candidatura, ha letto anche qui in diretta alla Zanzara questa sera esclusiva mondiale una lettera di scuse al presidente Napolitano. Diciamo che più o meno si chiude qui la vicenda, io non la penso come Parenzo, si chiude qui questa vicenda, poi sui toni alti... No, ma anche per me si chiude la vicenda dell'ottimo Lassini, non si chiude tutto il resto. Vabbè sì, sui toni che si usano ne possiamo parlare a lungo. Bene, Cristiano, allora? Sì, poi volevo aggiungere che io da giovane parlavo del fatto che comunque di fronte a quello che vediamo tutto l'assetto governativo che sta intorno a Berlusconi, pochi intorno a lui penso che un domani possano avere un futuro politico senza Berlusconi, perché come è stato detto da qualcuno appunto è un mito e in quanto mito quelli che gli stanno intorno attaccano, io penso che sia così, attaccano la magistratura per il semplice fatto che lo fa il capo, quindi il capo fa una cosa, vabbè, tutti seguono. Questo cosa c'entra col futuro politico? Lei dice, lei dice quando non ci sarà più Berlusconi ci saranno molte persone che non saranno più in politica. Vabbè, vedremo Cristiano. La ringrazio, la ringrazio, la ringrazio. Andiamo a Rita da Trento, buonasera. Ah, oh, buonasera Cociani. Signora Rita, dica. È mezz'ora che aspetto. E lo so, lei ha ragione, ma siamo qui anche noi. Prego. Allora, volevo fare esprimere una mia opinione su Spataro, sulle dichiarazioni che ha fatto Spataro. Sì, dica. Ecco, non mi sembrano così pazzesche, così assurde, perché... No, ma uno le può discutere, il problema è che le dice Spataro in televisione. Sono due... conto mio, Lei l'aveva pensato per conto suo, va benissimo. Siccome... Sì, avevo fatto queste considerazioni. Ma se lo pensa lei, cara Rita, e lo dice, non è un problema, nessuno si stupisce. Cioè, è la libera discussione che c'è in Italia perché c'è la libertà di espressione. Dire da qualcuno, Ma ho capito, ma non è uno qualunque, è uno dei magistrati principali della Procura di Milano. È un po' diverso. Se lo dice lei. Non ha detto delle bestemmie. Ma via. Non ho detto che ha detto delle bestemmie. Secondo me in parte sì, facendo un collegamento tra Berlusconi e Mussolini, Mussolini che non c'entra assolutamente nulla. Ma no, perché no? Non c'entra. Vabbè, allora c'entra Mussolini. Rita, se vuole che chiamo una bella ambulanza, va bene, altrimenti. Hanno molte affinità. Benissimo, siamo alle affinità tra Berlusconi e il Duce. Caratteriali. Se lei è psichiatra? Sì. È psicanalista? No. Cos'è? Cos'è? Però il carisma ce l'hanno entrambi, o no? Ma quello c'è, il carisma ce l'hanno un sacco di statisti, Rita. Abbia pazienza. No, su. Che il carisma di Berlusconi e di Mussolini è un carisma tutto particolare. Guardi, l'accostamento tra Berlusconi e Mussolini fa parte della letteratura che c'è su Berlusconi da 15 anni. Sì. L'arroganza. L'arroganza, quello è l'egocentrismo. Benissimo. La presunzione. Vabbè. Questo gusto plateale. Ma sa che non è una prerogativa solo di Mussolini, non sono caratteristiche solo di Mussolini quelle che ci sta elencando. Comunque, cara Rita, Di Gheddafi. Beh, tutti i dittatori, chissà perché lei sceglie tutti i dittatori. No, ma sì, perché sono personaggi folcloristici. Secondo lei Obama non è egocentrico. Secondo lei Obama non ha questa caratura, anche lui un po' idolato, il popolo obamiano non è in idolatria rispetto a questo. Fa parte delle leadership, questo non... Cara Rita, il punto è un altro, lei lo può dire tranquillamente, non è un problema, è una sua libera opinione, ce ne discutiamo, ci scherziamo e va tutto bene. Lo ha detto una persona che si chiama Armando Spataro, che è un magistrato che giudica, che fa, tra l'altro è... Che dovrebbe essere terzo, questo lo sta aggiungendo la signora Casellati. È quello che tipicizza il ruolo dei magistrati, deve essere terzo. Rispetto ai cittadini, non devono aver paura se si appartengono ad una collocazione politica, ad un'altra, di essere giudicato, perché il giudice è terzo. Dunque, secondo lei i cittadini dovrebbero avere un po' paura di Spataro se vengono giudicati da Spataro? Se uno si pronuncia in maniera, in un certo modo... Come Spataro? Come Spataro, vuol dire che è talmente imbevuto di un'idea politica che giudicherà e le sue idee le proietterà poi. Che idea politica secondo lei? Come? Che idea politica secondo lei? Ma quale idea politica? Lui fa parte di Magistratura Democratica. Non è un reato. No, ma assolutamente no. Vede, lei gioca sulle parole e questo non mi piace. Siamo qui alla radio. Ho detto che i magistrati non è che non possono avere, ci mancherebbe altro, una loro idea politica. Quello che non va bene è che la loro idea politica la possano proiettare in un giudizio, che è cosa diversa. E dunque, secondo lei... Ognuno può pensare come vuole. Benissimo, no? Io faccio l'avvocato, posso pensare anche che il mio cliente, quello che dice va bene, non va bene, poi lo devo difendere comunque. Ho una mia idea che rimane dentro di me, però. Ho capito, perché secondo poi lei... la professione deve coprire. Cioè, secondo lei, chi viene giudicato da Spataro deve temere per le sue idee politiche? Ma io non lo so a causa delle idee politiche di Spataro. Io dico che se uno si pronuncia in un certo modo e giudica un Berlusconi in un certo modo, vuol dire che domani, se dovesse giudicare Berlusconi, non sarebbe così sereno nei suoi confronti. E dunque anche vicende che riguardano magari esponenti vicini a Berlusconi non sarebbe sereno nel giudicarle. Io non so se lui ha attaccato Berlusconi, e quindi sto pensando a Berlusconi, l'ha attaccato personalmente. Beh, più o meno facendo parte di una professione dove non si dovrebbe attaccare niente e nessuno personalmente, o dare dei giudizi su paragoni o identificazioni che non mi pare siano proprio appropriate. Sì. E quindi il fatto che domani dovesse giudicare Berlusconi è stato oggetto di un suo specifico giudizio, io non credo che sarebbe sereno. Allora, abbiamo la borsa, poi le strappo ancora due minuti perché ci sono stati interventi degli ascoltatori eccetera eccetera. 800 24 00 24, questa è la Zanzara, caro Parenzo. Ci sentiamo domani, sarò in diretta da Roma, a tua totale disposizione fino anche alle 21.30, anche fino alle 22. No, ma non c'è bisogno, fino alle 21 mi basta. A dopo. Siamo qui alle 20.33, 800 24 00 24, andiamo in provincia di Napoli da Andrea, buonasera. Buonasera, mi sente? Dica, sì. Ah, ok, a proposito dell'episodio dei manifesti. Sì. Allora, secondo me il colui che si è preso la responsabilità c'entra, non c'entra molto, ma credo che dietro di lui ci sia qualcuno di più grosso, insomma. Questo è quello che penso io. Vabbè, Andrea, però cosa significa questo? Significa che non è stato proprio lui direttamente ad aver fatto questi manifesti. Poi a chi vuole intende, non è che voglio sbilanciarmi, però secondo me ho capito, però non è che si può dire c'è qualcuno dietro così. Lei immagina che ci sia qualcuno dietro? Vabbè, ho capito. Va bene, Andrea, grazie. Andiamo a Salerno. Ciro, buonasera. Pronto? Prego. Che fatica, Cruciani. Mi ha fatto andare via Parenzo, quindi a questo punto devo stare più calmo. Invece... No, che calmo. Dica quello che deve dire senza problemi. Parenzo va andato via perché è la Pasqua ebraica. Che devo fare? Mica lo posso trattenere a forza. Parenzo ha detto che con le dimissioni di Lassini si era, cominciava tutto. Invece, giustamente, quell'episodio lì è finito. Bisogna usare le parole giuste. Io credo che il modo di parlare di Berlusconi sul problema della giustizia sia l'esatto necessità che esiste in Italia per controbattere quello che combinano alcuni magistrati. Vabbè, io non sto dicendo quello che dice Berlusconi, stiamo parlando di quello che ha scritto Lassini o chi per lui in quel manifesto. Lassini ha sbagliato, lo ha detto, perciò ha fatto le scuse. E anche Berlusconi usa le parole, si prende su lui la responsabilità dei toni e dei termini che usa. Però è esattamente quello che deve fare. Cioè lei utilizzerebbe le parole cellule come ha utilizzato Berlusconi, cellule... Se fosse Berlusconi sì, perché Berlusconi se lo può permettere. In che senso se lo può permettere, signor Ciro? Se lo può permettere perché ha un ruolo istituzionale, un potere del denaro che riesce anche a difendersi da eventuali ulteriori imputazioni che potrebbero arrivare anche su questo fronte. Il problema è un altro. E qual è? C'è... una speranza soltanto in Italia per rompere questa battaglia feroce fra la magistratura e la politica è che la gran parte dei magistrati si tolgano dal ruolo di lobby e che sono gente io ho un rispetto sacrale per la magistratura invece? Però ci sono dei magistrati che infangano la magistratura sia per la qualità sia per l'ideologia che mettono nei loro comportamenti. Guardi, io voglio fare un solo esempio, il processo Rubbi, il culto della prova, quelli che sono dei tecnici, io sono un avvocato anche se non esercito, sanno di che cosa si parla. Le pare che se fosse esistito nei confronti di un presidente del Consiglio una prova abbastanza consistente dei due reati per i quali viene allora... c'era bisogno di fare 6, 7, 8 mesi di indagini, di andare a scatenare una guerra tecnologica per tirare fuori. Non c'è un magistrato serio in Italia che possa pensare che Berlusconi non superi i 2 o i 3 gradi non so neanche se si arriva in Cassazione, non potrà mai essere. Vabbè, vedremo, Ciro, per carità, io sulla, sull'iniziativa non giudiziaria. Non esistono le prove. Sì, vabbè, Ciro, vedete, adesso questo qua non lo possiamo dire, noi non esistono. Anche secondo me è una follia l'iniziativa giudiziaria. L'iniziativa, poi le prove non ne parliamo. L'iniziativa giudiziaria è non la responsabilità politica di Berlusconi nella vicenda della sua vita personale. La ringrazio, Ciro. Signora Casellati, le volevo chiedere una cosa. Cosa pensa? E poi ci salutiamo. Sì, assolutamente. Cosa pensa della, dell'uscita, nell'intervista al settimanale A di Stefania Craxi, per quello che ha detto su Berlusconi, secondo lei si dovrebbe dimettere? No. No. Io credo che Berlusconi debba finire questa legislatura. Sì. I numeri, perché ci avevano già dato per defunti il 14 di dicembre, sì, del 2010 e non è stato così. La recente votazione alla Camera sul processo breve ha dimostrato, con lo scrutinio segreto, che abbiamo più voti di quelli che sono propri della maggioranza, quindi di fronte ad una maggioranza che vuole portare a termine il programma, perché qui parliamo di tutto. Però scusi, però io sto parlando una cosa di Stefania Craxi, quello che ha detto Stefania Craxi in un'intervista ad A. Lei ha detto, per esempio, basta barzellette oscene, devi fare un passo indietro. Poi io non so se abbia raccontato barzellette oscene. Beh, qualche barzelletta oscena l'ha raccontata Berlusconi. Ho capito, io queste barzellette oscene non le ho sentite. Quelle della mela non l'ha sentita? Io non l'ho sentita. Quella della mela non l'ha letta, non l'ha sentita? Io non l'ho sentita. Ho capito, ma abbiamo sentita. Non so se l'abbiano raccontata o messa sui giornali, non lo so, non l'ho neanche letta per la verità. Adesso non so se sia stata pubblicata questa barzelletta. Beh, quella è abbastanza oscena, poi ma ce ne sono altre oscene, ma non vuol dire, non voglio dire. Secondo lei non adesso sono oscene le barzellette di Berlusconi? Alcune, no, non tutte. No, non lo so, io dico, quando noi facciamo le nostre riunioni non le ho mai sentite dopo. Vabbè, le ho capito, in altre occasioni però l'ha dette. Ci sono libri interi sulle barzellette di Berlusconi. Ho capito, però questo che significa? Che qualcuno, che se lei a casa sua racconta qualche barzelletta, anche forse un po' così, un po' spinta, poi qualcuno va fuori e dice lui è uno che racconta sempre barzellette. No, mi scusi. Magari l'ha raccontata mica pubblicamente. No, mi scusi. L'ha raccontata. Signora Casellati, pubblicamente Berlusconi le racconta ormai, è fuori dalla macchina, nelle riunioni con io non le ho mai sentite con personale politico, però adesso non può darsi che io non sappia che lui racconti tutte queste barzellette, adesso non so questa cosa, adesso la Craxi è libera di pensare come vuole, chiamo l'uomo politico, sì, perché adesso fra la vita privata e fra la barzelletta o quello che è, si distoglie l'attenzione dall'uomo politico Berlusconi. Vogliamo giudicarlo per quello che ha fatto? Sì, però allora lui, la signora Craxi, governo, la signora Craxi dice totalmente. La signora Craxi dice non può essere travolto dal ridicolo, deve smettere di raccontare barzellette oscene, non gli fanno onore e non fanno ridere. Lui mi vuole bene, io ne voglio a lui, solo per questo che mi permetto di essere dura. Sono madre e ho il dovere di invitarlo a pensare che la classe dirigente politica ha il compito dell'esempio. Dunque basta barzellette oscene. Ora, voglio dire, siccome esistono queste barzellette oscene, lei mi dice no, non le ho mai sentite, d'accordo? Ma io sono in Forza Italia dal 1994 e non ho mai sentito barzellette oscene. E credo di aver visto Berlusconi moltissime volte. Barzellette ne racconta, oscene non le ho sentite. Io personalmente non le ho sentite. Ho capito, a lei non le ha raccontate oscene, magari le ha raccontate in altre occasioni o quando non c'era lei, però le ha raccontate alcune barzellette oscene. Ma voglio dire, evidentemente, se sono riportate sui giornali, vuol dire che le avrà raccontate e qualcuno le avrà riferite. Io ho sentito, da ultimo, lei sta parlando di quella della mela il cui contenuto non conosco, però è molto pesante, se vuole la racconto. Era in una riunione a Palazzo Grazioli, l'ha raccontata in mezzo privatamente, poi qualcuno ha avuto anche il cattivo gusto di riportarle fuori, perché magari come cattivo gusto non è quello di Berlusconi, ma di chi l'ha riportata fuori? No, mi scusi, signora Casellati. Lei non ha mai raccontato una barzelletta un po' più fuori, magari insieme ai suoi amici? Ma non è insieme ai suoi amici, è dentro il Parlamento, in una riunione tra parlamentari. No, ma non credo che. Ma Una riunione fra parlamentari è una riunione fra amici e dirigenti locali. Ho capito, ma al di là di questo, se qualcuno l'ha riportata fuori, l'ha riportata anche con un audio e con un video, cioè non è una cosa, non è la violazione della privacy, cioè non è il cattivo gusto di chi l'ha riportata, sono barzellette che Berlusconi ripeterebbe tranquillamente. Tra l'altro ce n'è un'altra sulla birra che è stata detta pubblicamente, gliela faccio sentire, così almeno si aggiorna anche lei, perché lei mi dice non conosco le barzellette oscene di Berlusconi, aggiorniamola al sottosegretario Casellati. C'è un italiano che insegna, che insegna un tedesco come si conquista una bella signora, e gli dice fai questo, fai quest'altro, poi finalmente prendi la coppa dello champagne, lo versi, non si può dire, lo versi davanti e lo suggi da sotto e gli dice bello, bellissimo, possibile fare con birra? Credo che non sia così romantico, no? Farlo con la birra. Va bene, l'ho molto pulita e quindi era molto più divertente se fosse uscita nella versione originale. Vabbè, questo è Berlusconi sulla barzelletta della birra. Questa, insomma, è edulcorata da Berlusconi, naturalmente, però, insomma, ha ragione la Craxi quando dice che deve smetterla con queste barzellette? Insomma, guardi. Ancora una volta non ha ragione la Craxi, perché si ferma su un aspetto che francamente trovo marginale, piccolo, sì, rispetto a tutto quello che ha fatto Berlusconi. Ci vogliamo fermare sulle barzellette, che ne so, capisco che uno possa non condividere, capisco che uno possa pensare in maniera diversa, ma arrivare a dire siccome racconta barzellette, siccome è questo, perché il fatto anche della sua diciamo fama internazionale o non buona fama, a me questo non risulterebbe francamente. Ma lo dice Stefania Craxi, che è sottosegretaria agli esteri. Lo so perfettamente, credo di conoscere i componenti del mio governo. No, appunto, dico, ma si deve dimettere o no la signora Craxi? No. Ma no, ma scusi, ma quando questo sarebbe successo, punto di domanda, da quando? Ma che ne so, io lo dica lei. Questo discorso succede? No, lo dica la Craxi. Appunto. No, ma scusi, siccome l'anno scorso abbiamo avuto tutte le televisioni di tutto il mondo, perché Berlusconi per le dichiarazioni di Spatuzza doveva essere il più grande mafioso del mondo. Adesso è iniziata quest'altra cosa delle ragazze, eccetera. Allora. No, però mi scusi, lei, secondo lei, la signora Craxi è ingrata per quello che ha detto nei confronti di Berlusconi? Questo lei fa sempre delle domande come se io fossi un jukebox, nel senso che infila la monetina e no, c'è la risposta. Ma che monetina? No. Volevo I capire. Sono molto se lei ha letto, ho capito, ma siccome qui. Ma lo penserà Berlusconi, se lo vuole pensare, io non do giudizi su nessuno. Non ho la è una collega di governo che dice che Berlusconi si deve mettere da parte. Le chiedo a lei se secondo lei si comporta con ingratitudine nei confronti del Presidente del Consiglio. È una domanda. Non giudico la Craxi. Non vuole giudicare la Craxi. Beh. No, scusi. Io dico semplicemente che Berlusconi, secondo me la Craxi sbaglia, nel senso che Berlusconi non si deve mettere da parte, e mi sembra che di tutta l'attività che Berlusconi da 3 anni a questa parte, vabbè, di tutto quello che ha fatto per gli italiani, ci fermiamo sulla questione della barzelletta. Mi pare che sia poca cosa che dopo ci sia una, ma c'è anche un pizzico di ingratitudine o no? C'è anche un pizzico di ingratitudine o no? No, scusi, mi faccio capire. Ma c'è un'enfatizzazione internazionale, perché che cosa noi andiamo a dire invece di proporre? Perché noi purtroppo abbiamo un'opposizione o ma delle che persone l'opposizione? Che invece di guardare alla nostra immagine in Italia si divertono poi a propagandare tutto questo, a me non piace, perché di fronte alla nostra immagine dovremmo essere tutti compatti a difenderla. Vabbè. Invece chiamiamo che è la Craxi che parla, non è l'opposizione, è la signora Craxi. Dunque queste cose quale dovrebbe dire alla signora Stefania Craxi? La cosa che volevo capire da lei, poi chiudo naturalmente, è che se c'è anche un pizzico, ma lei non me lo vuole dire, dice no, non voglio dare giudizi sulla Craxi, va bene. Io non voglio dare giudizi sulla Craxi, io voglio dire, per me non ha ragione. Non ha ragione, tutto. Vabbè. Lei mi chiedeva un'altra cosa. L'ingratitudine, cosa se c'è ingratitudine. L'ingratitudine, questo è un concetto che può far parte soltanto di due persone, perché c'è una che dà nella gratitudine, che sarebbe Berlusconi, e una che riceve la Craxi. Quindi siccome non sono io che ho dato l'ingratitudine, dovrà giudicare Silvio Berlusconi, che è quello che ha dato. Non c'è dubbio. No, non c'è dubbio. La ringrazio molto, passi una buona serata, grazie. Grazie anche a lei. Grazie, traffico. Siamo qui nella parte conclusiva della Zanzara, 2047 800 24 0024. Andiamo a Pescara, giusto? Buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Senta, io stasera l'ho chiamata perché volevo dire, volevo muovere una critica, sì, perché sì, lei purtroppo, a mio avviso, sì, conduce la sua trasmissione in maniera troppo parziale, cioè sì, il suo modo di essere di destra, sì, di estrema destra, signor Cruciani, va bene, giusto, va bene. Però io comunque non è questo il motivo, io volevo dirle, lo sai che questa solo... qua, quello che ha detto è una stupidaggine pazzesca, però lei non se ne rende conto, va bene, pazienza, non no, se ne rende a volte conto. Il suo modo di essere mi irrita, però è una persona molto intelligente, la seguo sempre. Però dica. Io stasera sì, non è questo il motivo, io volevo l'ho chiamata perché ho sentito l'intervento della Casellati, della senatrice, sì, e devo dire che questa signora è veramente fuori dal mondo. Cioè, questo che ho sentito poc'anzi è un esempio di cortigianeria nei confronti del capo in maniera esasperata. Mi rendo conto a questo punto, Cruciani, sì, che la difesa del loro posto di lavoro, perché per loro è un posto di lavoro, è così estremizzato, perché se finisce il capo, qui finisce veramente tutto. Ma adesso non so, allora, non so se sia questo, però devo dire la verità. Ma guardi, dopo l'intervento che ha fatto la Casellati è lei una donna fuori dal mondo. Cioè, è veramente di una... Mi pare che non riconoscere nemmeno che Berlusconi racconti barzellette oscene sia una cosa assurda. È fuori dal mondo, cioè questi signori si coprono il capo, la difesa del capo di Berlusconi diventa una priorità. Come devo dire la verità, che la signora Stefana Craxi, che oggi è a Dubai e che non potevamo chiamare, può permettersi, dall'alto forse del suo nome, del suo legame con Berlusconi e da altre cose, di dire cose che altri pensano, magari non dicono. Però magari nei prossimi giorni volevo sentire l'amico Filippo Facci su questo, perché so che oggi ha scritto un articolo sul Libero, io l'ho letto sul sito di Luca Sofri, sul post.it, in cui c'è la critica molto forte alla Craxi, dicendo se uno dice queste cose poi alla fine si deve anche dimettere, perché altrimenti quando Berlusconi è nel pieno di una battaglia non si può abbandonare una persona nel pieno della battaglia. Giustamente la Stefania Craxi, Cruciani, dice, se mi permette, sì, che non era questa l'Italia che il padre si questo però l'interpretazione ex post di quello che sognava il padre, io francamente non lo potrei dire nemmeno di mio padre, però per cui comunque questo... Io suo padre ho avuto la fortuna di conoscerlo, comunque, per inciso, qui a Pescara. Va bene, grazie, giusto, grazie. Grazie al suo intervento. Vuole aggiungere qualcosa? No, volevo solo dire, se me lo consente, sì, di Lassini, il democristiano Lassini. Io ho letto oggi su Repubblica che lui fa una minaccia molto chiara: se mi fanno arrabbiare, vuoto il sacco. Sì, mi sembra. Secondo però me, mi sembra. Si sta aprendo una crepa nel PDL. Non credo, giusto, perché credo che sia una dichiarazione di ieri, superata poi dagli eventi di oggi, questo penso. Ma io ho letto su Repubblica stamattina, appunto, io sto rientrando adesso. Oggi Lassini ha scritto una lettera di scuse a Napolitano, si è dimesso dalla lista, è intervenuto anche per fortuna dopo. Si è accontentato di dimettersi, questo mi lascia pensare. Va bene. Può darsi, anche se poi non è ancora chiara questa cosa, se il suo nome possa scomparire dalla lista. Bene, grazie, giusto, grazie anche per quel ricordo che naturalmente mi fa molto piacere. Marco da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, in merito al discorso di Spataro, delle sue dichiarazioni in televisione, vorrei dire che sostanzialmente mi sembra che il primo a contraddire le regole istituzionali, diciamo, dei rapporti tra le istituzioni, sia stato proprio Berlusconi, che con le sue accuse ha sostanzialmente denigrato un'intera categoria e quindi anche il signor Spataro. A questo punto, fuori dalle regole, il signor Spataro probabilmente ha cercato di difendersi dando una voce differente, perché il problema non nasce con Spataro, il problema nasce con Berlusconi, che fa le dichiarazioni che fa, insomma, quindi sì, però, crea Marco, condizioni per le quali il punto è molto... che dopo la risposta sì, però, non è nella direzione delle regole, diciamo. No, però mi scusi, qui c'è un fatto molto chiaro: Berlusconi è evidentemente responsabile delle cose che dice dal punto di vista politico, eccetera eccetera. Spataro è uno che deve giudicare, in questo caso è un pubblico ministero, uno che rappresenta l'accusa. E secondo me, ripeto, io non vorrei mai vedere giudici in televisione se non per motivi istituzionali. Andare da in una trasmissione televisiva a dire certe cose, facendo paragoni tra la situazione di adesso e quella del fascismo, tra quello che potrebbe succedere, tra quello che vuole una persona, perché poi a Berlusconi si rivolge, a quello che è in testa Berlusconi, francamente mi sembra eccessivo. Ripeto, se si fosse limitato a dire la Costituzione prevede questo, questo, questo e quest'altro, questi sono i rischi, se la magistratura viene assoggettata all'esecutivo è una cosa, ma il riferimento al Duce, il riferimento a una persona che vuole fare le stesse cose che vuole fare il Duce, secondo me è eccessivo per un magistrato. Questo volevo dire, Marco, o sbaglio? Sì, però io mi aspetto anche sì, che ma non c'è benaltrismo, non è che se sbaglia Spataro allora bisogna ricordare gli errori degli altri. No, non è questo il punto. Io credo che il signor Presidente del Consiglio, che è anche il mio Presidente, che non voto peraltro, ha di fronte a sé un'istituzione come la magistratura. Nel momento in cui lo attacca parlando di magistratura eversiva, crea una condizione, per me che sono un cittadino che non l'ha votato, per esempio, sì. Io mi sento indifeso in questa situazione. Perché sì, a parte che Berlusconi, come lei sa, parla... Il mio Presidente, sì, però che parla di una magistratura. Io sono convinto che... Berlusconi parla di una parte della magistratura, come lei sa bene, Marco. Non è che parla tutto di tutta la magistratura. Vuole, però io in quanto non... Cioè io, tutti quelli che hanno votato Berlusconi ovviamente dicono che la magistratura attacca Berlusconi perché attacca... diciamo un personaggio che loro riconoscono come positivo. Io come faccio a difendermi da una situazione nella quale, non avendolo votato, non avendo fiducia, penso che la magistratura debba fare giustamente un controllo, una verifica delle azioni del Presidente, perché altrimenti noi non votanti, che peraltro siamo forse più del 70%, beh, diciamo, la verifica di quello che fa Berlusconi la dovrebbero fare gli elettori, in primis. Poi un'altra cosa sono i reati. La ringrazio, Stanislao da Rieti, buonasera, veloce. Buonasera, volevo dire forse un concetto un po' più lungo, però intanto sentendo il sottosegretario dico che spettacolo, perché veramente se queste persone se gli fa comodo, se pensano che... Stanislao, la sentiamo molto molto male. Ivan da Palermo, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. E allora, Lassini, il povero Lassini. Abbiamo trovato il capro espiatorio, come sempre, alle malefatte degli altri. Ecco, è partita la dietrologia. Avanti, su, in carrozza. Dietrologia, no, chissà chi c'è dietro. Chi c'è dietro Lassini? No. Per carità, poi magari c'è qualcuno, non lo so. Però. Detto, a parte che ci sarà la magistratura che indagherà su tutto questo. Però immagino, dico, che Lassini possa essere stato ispirato dalle parole pronunciate da Berlusconi. Ma lo ha detto anche lui questo. Appunto, quindi dico, andare adesso a incolpare Lassini e far passare per cattivo lui, benché dico, sto difendendo, faccio il difensore del diavolo, perché non sono un uomo di destra, quindi non ci terrei a... Ho capito, lei è della corrente Parenzo, Lassini va candidato, va lasciato in lista perché altri hanno detto cose più gravi di lui. Devo chiudere però, per oggi ci sentiamo domani 18:30, ciao! La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa, non mi preoccupare. Radio 24, la passione si sente.